L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sto vivendo un mini dramma, cioè mini, mega. Ho accanto qui la mia ragazza e mi ha appena detto che vuole diventare vegetariana. Dillo un po'. Io le bestie non le mangio. Ecco, io cosa devo fare? Cioè, adottami, Cruciani, adottami. Amico mio, lo farei volentieri, lo farei molto volentieri e ti capisco. Io non sono un respiriano, sono un parenziano. Ti ascolto e mi fai girare i coglioni, mi nutro di odio. Caro Parenzo, è arrivata una valanga, amico mio, eh? È arrivata una valanga. La questione è molto semplice. Molti hanno interpretato male quello che io ho detto nei giorni scorsi. No, hanno interpretato male. Per carità, ripeto, confermo tutto. Però bisogna dare alcune precisazioni, perché è importante dare alcune precisazioni. Non rinnego niente, non ti preoccupare, mica so come te che si tira indietro quando vede che quando vede sotto un po' di calore, quando vede sotto un po' di un po' di cenere, un po' di casino. No, hai detto una cosa chiara, non c'è da smentire, no, né da, la cosa da chiara, fare. Da fare di fronte, sì. A che cosa? Di fronte al fatto che un signore viene, mi dà 200.000 euro. Un signore, non è che fanno la colletta e affittano il nero ragazzi, stiamo precisiamo questa cosa. Ho detto un signore che si presenta con 200.000 e che vuole, come dire, violare la mia verginità anale. Il punto però è molto, sembra una follia. Non è una follia, amici miei, perché nasce da una considerazione molto semplice che ho fatto sull'utero in affitto. Io sono strafavorevole all'utero in affitto. Ho detto che si può praticare tranquillamente. Lo fanno in California, non lo fanno in Botswana. Non è come vendere un organo, perché è molto diverso. Quella pratica è praticamente bandita da tutto il mondo. L'utero in affitto lo fanno in California, per dirne una, anche in Canada. Io sono ultra favorevole. Parentesi, è Vendola che dovrebbe dimangiarsi tutto il suo passato, secondo me. La protezione della donna, eccetera, eccetera. Allora, prendendo spunto da questa roba qui, tanto per ricapitolare, Parenzo, perché magari qualcuno non è informato. No, Giude sa perfettamente come sono andate allora, le cose. La cosa, quindi. Tanto ho detto, ognuno di noi può dare un prezzo a qualche cosa, no? A qualche cosa che ha. Per esempio, la donna ha il suo utero per metterlo in affitto, un uomo magari può mettere all'asta la sua verginità anale, il suo sedere. Ho detto mi farei inchiappettare per 200.000, ma ho detto 200.000 così, comunque confermo. Beh, così, per dire una cifra secondo me consistente. Infatti non si troverà nessuno, te è lo il dico tuo prezzo. No, c'è gente non che si sta troverà già nessuno. Ieri si è presentato un tizio che riascoltiamo qua, una telefonata che sta girando, che sta facendo anche un po' di scalpore. Per carità, io sono qui ad accettare qualsiasi tipo di critica, naturalmente, però le cose sono molto chiare. Ieri ha chiamato uno e io non credo che questa persona qua voglia davvero mettere sul piatto 200.000. Cristiano da Bologna, vai Cristiano. Giuseppe, dimmi. Oh, finalmente, non vedo l'ora che facevi quello che hai detto. Cioè, io c'ho pronti 200.000, Giuseppe. Sì, ma figurati se c'hai pronti 200.000 euro. Dai, non c'è nessuno che ha 200.000, giustamente, perché ho detto io posso, come dire, violare la mia verginità anale in cambio di 200.000 euro. Questo, ma io ce li ho! Ma non ce li hai, Cristiano, non dire stronzate, dai. Ragazzi, per dirla in maniera chiara, ho dei milioni di euro, io non è un problema i 200.000, ecco perché ti sto dicendo che ce li ho. Va bene, benissimo, mettiti in contatto attraverso le nostre mail, cioè già nome e cognome, assegno, bonifico. Ma non puoi fare così adesso, però. Ma che vuoi allora, scusa? Vuoi la prova? Ma non hai nulla, sei un po', sei un poveraccio. Io voglio il tuo culo. Sei un poveraccio, Cristiano, non hai i soldi, non hai i soldi. Troviamoci, poi ti faccio vedere. Ma che troviamoci? Non incontro nessuno. Prima bonifico, prima bonifico, allora dare bonifico. Parolo. Prima bonifico, prima dare bonifico, poi io dare culo, come si dice. Prima bonifico, poi l'ha detto alla, Poi vedere cammello. Poi vedere cammello, Cristiano. È inutile che fai lo sbruffone, ho i milioni di euro, non c'è un cazzo, sei un poveraccio, un morto di questo male. Questo li hai invece. Tu resti convinto che ce li ha, Parenzo? Assolutamente, qui si mette male. Allora ragazzi, qualcuno mi spinge, vogliamo un commento sulla vicenda della Reggia di Caserta? Arriverà. Intanto bisogna commentare il nostro amico Vissani, non è che ci nascondiamo, è amico nostro, più tardi sarà ai nostri microfoni. Signor Vissani era anche presente alla festa dei 40 anni di Parenzo, pochi giorni prima il lieto evento della nascita del figlio di David, con scarpe rosse d'ordinanza, elegantissimo, insieme alla famiglia. Dettagli importanti, i dettagli sono molto importanti sempre. Scarpe rosse, grande eleganza, e tra l'altro siamo anche conterranei, si può dire, per metà sono orvietano, lui è di Terni, più o meno siamo lì, insomma. Non nascondiamo la nostra amicizia con il signor Vissani, assolutamente, però ha detto questo ieri a Tagada e me lo sono riservato per oggi. Essendo gli uomini poverini, degli esseri un po' deboli, allora succede che le ragazze italiane, giovani, carucce e anche un po' furbette, li adeschino. Mi pare che abbia detto questo, Vissani. Questo sicuramente. Che si traduce nel fatto che siete degli imbecilli, lo vogliamo dire? Allora, questa è la Panella che commentava e riassumeva la sette Tagada, un intervento di Vissani. L'intervento di Vissani è questo. Sono più le minorenni che danno fastidio, non quelli che vanno con loro. Sono le minorenni che fanno le stupide. Ve lo dico io perché... No, io non posso stare certo. Un ragionamento di questo tipo è veramente inaccettabile. Spero si sia sbagliato a esprimersi. Veramente come? Inaccettabile. Si è sbagliato magari a esprimersi? Io? No, non lo so, cioè le minorenni insidiano gli uomini, cioè sono le insidiano. In Italia ci sono tante minorenni che fanno le stupide, stupide veramente. Ma le stupide cosa vuol dire? Fanno le prostitute, fermo. Vi insidiano? Allora ragazzi, si sta parlando di prostituzione minorile, Vissani dice una cosa che ovviamente è vera, perché ci sono diverse ragazzine che magari fanno le stupide con persone più grandi, ma questo è normale, come persone, come dire, no? Come ragazzi giovani che magari rompono le balle a donne di 50 anni. Ma che c'entra questo con la prostituzione? Cioè, cosa c'entra con la prostituzione? Non c'entra assolutamente nulla. E poi comunque sta sempre all'uomo più grande pensare, scusa, ma questa quanti anni ha? No? Cioè, ha detto una stronzata, secondo me. Ha detto una stronzata, ma sentiremo più avanti. Ancora Vissani. Che se il tema è la ragazzina di 15 anni molesta il signore di 50, io insisto a dire che il signore Tiziana di 50 è un imbecille dal suo punto ma di vista. Tiziana, ha lo stimolo. Cos'è che ha lo stimolo? Chi mi perdoni? Ma la sedicenne che fa la stupida non è che lo fa solamente con noi, lo fa con i ragazzi della sua età, uguale tutti i giorni. E quindi maschio o femmine? È l'ingovernabilità del pisello. Scusami, l'ingovernabilità, a quelle signore gli dovrei parlare. Ancora. Io non riesco a capire il collegamento tra le due cose, cioè la prostituzione, la questione della prostituzione. No, diceva in generale che possono accadere degli episodi in cui anche i maschi lo fanno, almeno da quest'ultima anche cosa. Anche i maschi lo fanno cosa? Mi sembra di aver capito così. Oh, ma che hai capito? Non ho capito. Cioè, no, che hai capito? Che anche i maschi, i ragazzetti si fanno gli stupidi tra di loro, si ammiccano, mi pare di aver capito. Questo dice. Però non bisogna guardare solamente le case oppure lungo la strada. Guardiamo tutte le universitarie che sono sui siti e che fanno di tutto e di più. Ragazze bellissime italiane, quello non abbiamo detto, quello che fanno loro, quella è prostituzione. Allora, Berlusconi ieri è intervenuto a proposito di Roma. È intervenuto da Porro. Da Porro, sì. Ha detto una cosa francamente assurda: al telefono, che tutti i candidati al cospetto di Bertolaso fanno ridere. Sì, fanno ridere. Cioè, innanzitutto, povero Storace, devo dire, che è l'unico candidato, diciamo, ufficiale del centrodestra, al di là della Pivetti, perché Marchini non è che può essere annoverato fra i candidati di centrodestra, no? Non solo Bertolaso è candidato, ma è l'unico candidato che può diventare un sindaco capace di togliere Roma dal degrado. Tutti gli altri candidati in campo di cui si è sentito parlare, al suo cospetto, al suo confronto, fanno ridere. Bertolaso è un fuoriclasse con 4 lauree. Vabbè, ma chi se ne frega, non è che con 4 lauree dice risolve tutti i problemi, l'ho conosciuto e risolveva tutti i problemi. Capace di decidere, di organizzare, di gestire, capace di darsi degli obiettivi difficili e poi di raggiungerli, e anche capace, questo è importante, di farsi amare dai suoi collaboratori. È davvero un fuoriclasse. Lui, e voglio ricordare che ha tra l'altro anche 4 lauree, è il migliore in assoluto tra tutti i manager pubblici che io ho conosciuto e con cui ho lavorato. Ma lo spiegasse a Salvini allora, il problema è che Berlusconi oggi non ha nessuna forza per imporre un candidato, questa è la realtà. E quindi gioca sulla forza, sul curriculum di Bertolaso. La realtà è questa, ma col curriculum di che Bertolaso fa, cioè non è che è curriculum come capo della Protezione Civile, come dopodiché, capo della Protezione Civile, sì, ma non certo, è che uno che il fa suo il capo, uomo, qui il suo wolf, qui il suo risolve i problemi. Sì, ma qui c'è l'assurdità che non c'è una persona, cioè a Milano candidano tutti i manager, lì c'è bisogno di uno della Protezione Civile, ma uno che fa politica c'è. Cioè uno in una grande città che fa politica. Beh, ci sarà distrutto, o no? Avete distrutto i partiti, dai, ragazzi, su. Miei, avete distrutto fermo i partiti, lì, avete togliendo il finanziamento fermo pubblico, che c'è Sgarbi, distrutto. Traffico, prima c'è il traffico. Vittorio, aspetta un attimo, è un minuto. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. Vittorio? Eccolo. Eccoci qui. Mi risulta che hai mandato un messaggio di solidarietà a Bissani. Sì, perché l'ho visto. Intanto non l'ho quasi riconosciuto, per quanto sembrava meditativo, filosofico e pensoso. Poi ha fatto una considerazione totalmente stravagante e politicamente scorretta, però non irreale. Cioè? Non l'ho scritto io, Lolita, ed è un libro degli anni, credo, tra 50 e 60. Nabokov, certo. E quindi già quello gli indica una cosa. Poi non è che ci manca un mondo di suggestioni infantili, no? Tutta l'opera di Balthus è questo, cioè non è che ha detto un'enormità. Naturalmente la parola minorenne vale per una contraddizione. Si è minorenni rispetto ai diritti civili fino a 18 anni. Però una donna può scopare da 14 anni in su con chi vuole, come è giusto, ed è minorenne. Sì. Dai 14 anni in su, prima era normale che scopasse, senza alcuna limitazione. Adesso, se invece a 17 anni e mezzo viene pagata, cioè lo fa per mercimonio, quindi sì, con un'intelligenza... C'è la prostituzione. C'è la prostituzione, che è una follia. Ma questo cosa vuol dire? C'è una follia che cosa? Che è una l'ha dato gratis e che la dà a pagamento, non è che sia più maliziosa se la dà a pagamento, o anzi più fragile se la dà a pagamento. Beh, se l'uomo lo sa, però, se l'uomo lo sa, è chiaro che è diversa la cosa, no? L'uomo conviene non pagarla. Però la malizia non ha niente a che fare con il pagamento. Ora, se una è pronta, dico, non so se vi ricordo qui sulle favelas in Brasile, che si chiama Il Tempo di Dio, una cosa, con i ragazzini che uccidevano a 12 anni. Sì. Cioè, non è che la maturità corrisponde con il fatto anagrafico dei 18 anni. Allora, cioè, ma tu con quante minorenne sei stato consapevolmente, senza pagare naturalmente? Beh, all'epoca non c'era la legge, non sono mai stata la mia predilezione, ma per esempio io ho trovato minorenne la donna che fu poi fidanzata di Berlusconi, che si chiamava, poi si è sposata, quella che lavorava con una ragazza di Arcevia, che si chiamava Francesca Impiglia. Ah, la Impiglia, sì, la Impiglia. L'ho scoperta io a 17 anni, mi sembrava abbastanza sveglia, poi a 18 anni... Cioè l'hai scoperta sessualmente, dici? L'ho scoperta affettuosamente, in generale. Però sì, non mi sembrava che fosse... No, ma al di là di Berlusconi, tu prima sei stato con diversi... Non ho mai avuto una predilezione per i minorenni, ma sicuramente ne ho frequentate. e non mi sono sembrate ingenue a priori perché minorenne, trovate ingenue piuttosto donne di 30 anni o 40 anni. Cioè, ma perché dici prima della legge? Cioè, non ho capito, non è che non si poteva fare, consapevolmente allora, si può fare no. Però. No, sì, appunto, perché la legge che è stata fatta naturalmente da due minorenni del governo Berlusconi, cioè la Prestigiacomo e la Carfagna. Minorenni mentalmente, dice. Minimamente minorenni, hanno fatto diventare penalmente rilevante una cosa che prima non lo era, prima c'era lo sfruttamento. Crea delle vittime. Vabbè, ma allora, torniamo a Vissani. Cioè, lui no, dico lo assolutamente. Ma una donna libera, sì, a 18 anni può essere, non so, Catherine Spacca le sue origini, ma tu guarda tutte le attrici quando hanno cominciato, se guardale bene, sì, vedi che a 17 anni erano pienamente consapevoli di quello che poteva fare il loro fascino. Ha detto una cosa ovvia, persino banale. Cioè, c'è la circonvenzione di attempato. Quale, in quanto è maturo e sa che non ha appeal, viene completamente circuito anche da una sedicenne. Non capisco perché questa frase ha stupito la panella, era perfetta. Ovviamente lui l'ha detto. Perché si parlava di prostituzione, cioè ecco, l'uomo dice Vissani, viene stuzzicato, diciamo, continuamente, l'uomo può essere stuzzicato, l'uomo adulto, da ragazzini. Diciamo, tutto, lui dice tutto parte dalle ragazzine. Beh, questo non riguarda la prostituzione forzata, ovviamente, ma quella spontanea certamente sì. C'è una ragazza che lo fa per il suo divertimento, ma c'è quell'altro film francese con una ragazza minorenne che sta con tutti gli uomini del mondo, i genitori la scoprono. Cioè, a te succede di essere, tra virgolette, molestato da ragazzine? Cominciamo talmente presto. Beh, ovviamente a me, in quanto uomo, fa famoso, ma non è che c'è una particolare differenza. Ho trovato più ingenuità nelle trentenni, nelle quarantenni, che non in una ragazza di 16 anni o 17 anni. Per cui le ragazze poi oggi, con gli stimoli che hanno, possono essere straordinariamente seduttive e anche consapevolmente seduttive. Per cui l'ho trovato una frase onesta, trattato come se fosse un mostro, come se fosse un depravato. Cioè, ha detto una cosa banale, ovvia. Quanti anni aveva Saffo? Tanto per dirne una. Quanti anni aveva? Saffo. Quando circuiva le ragazze. Sì, ma no, ma quello è chiaro, però quelli sono altri contesti. Il problema è che uno dovrebbe rendersi conto, siccome si parlava di prostituzione, e se uno dice tutto nasce dalle ragazzine, tutto nasce dalle minorenni. Ma la frase che hai fatto sentire tu non parla proprio subito di prostituzione. No, ma si stava parlando di prostituzione, capito? Sì, ma la prostituzione, se è spontanea, non ha problemi di età. Se è una che fa la troia, può cominciare a farlo anche a 16 anni, se decide di farlo. Se mai decidesse. Comunque tu dici ha ragione, non c'è niente di particolare in quello che ha detto Vissani. Niente di particolare, nella natura femminile. Se poi una ha la natura di fare la studiosa o l'ingegnere o l'architetto ed è costretta da uno stronzo a prostituirsi, quello è quello che si configura come sfruttamento. Quella è una cosa diversa. Io parlo della spontanea predilezione di una ragazza per sedurre. Secondo me comincia a 15-16 anni. Io ho qui due ragazzi, sentiamo ragazzi, voi quando è che avete cominciato a capire che eravate sedicenti? Quante, a qualche ora? 14. Ecco, 14. Te la passo. Sì, passamela. Sentiamo. Pronto? Con chi parlo? Sono Giuseppe Cruciani, salve. Quanti anni hai? Cruciani, io adesso quanti anni ho non te lo dico, ma sicuramente ero seduttiva già a 14 anni. Cioè eri seduttiva? Stavo con un uomo di 30. Eri seduttiva? A 14 anni stavi con un uomo di 30? Ma la vergogna assoluta. Una vergogna assoluta. Dice Parenzo. Vabbè, no, Parenzo scusami, di in diretta? No, che diretta? Qui non è mai in diretta. Un po'. Scusami, a 14 anni stavi con una di 30, giusto? È pazzesco però. Pronto? Ma a 14 anni stava con uno di 30 questa tua amica. Ma consapevolmente. Ma era consapevolmente. Appunto. Conosco milioni di casi. Io francamente, Vittorio, ora diciamo la verità, tu sei stato anche con minorenni, diciamola, sei stato anche con minorenni. No. Consapevoli naturalmente, sopra i 14 anni, dunque non eri nel campo dell'illegalità, no? Eri nel campo della appunto, quello cosa? Che sempre. Io però una volta che mi è capitato di stare, ma tanti anni fa, devo dire la verità, con una ragazza più piccola, molto più piccola di me, a un certo punto mi sono terrorizzato perché pensavo, che io ne avevo 30, pensavo che ne avesse più o meno la stessa situazione, 30, pensavo che ne avesse, no, non 14, eravamo su 17-18, mi è preso il terrore che questa capo potesse, che ne so, denunciarmi, ero in Francia. Ma magari non può denunciare perché la legge lo impedisce. Sì, non lo so, però tutto è possibile, magari ti dicono che l'hai costretta, no, a qualsiasi cosa, dai. Questo può dirlo anche una persona. Chiedere sempre carta d'identità, ragazzi, chiedere sempre carta d'identità. Ma sempre. Per il caso della prostituzione. Ma sempre, anche perché tu puoi dire tranquillamente, possono raccontare qualsiasi cosa, ti possono ricattare, possono fare qualsiasi cosa, dicono che lei non può vivere. Io non parlo del fatto che non viva nel terrore, dico che la considerazione fatta da lui l'altro giorno era così basica Sembra possibile, incredibile. Sembra incredibile. Sì, era ingenua che l'abbiano attaccato. Senti, un'altra cosa. Io, hai letto che questa roba che qui... tu dai via il culo a 200.000 euro. Io se, no, se... ce n'è 180, ti bastano? No, ma non ce li hai 180, c'hai i buffi, ti chiudono... No, ma io non voglio il tuo culo, però insomma... Ti chiudono le società... Uno che paga, ti chiudono le società perché società, non... Sì, anche quello è incredibile, io non guido l'automobile da 25 anni... Ho capito, anni, ma quindi... fai le multe che sono intestate a tua madre, tutte le multe sono intestate a tua madre, però... Mica le mie, neanche quelle sue. E ho capito, ma guida il tuo autista. Le multe vanno intestate. L'autista che sia attento lui, mica io posso. Ho capito, ma ho capito, sì, amico mio, ma perché le intestate tutte a tua madre, poverina? Che poi l'ha fatto lei. L'ha fatto lei per salvarti il culo. Per salvarti il tuo culo, tra l'altro, l'ha fatto. Sempre, vedi, il mio casà salvo, il tuo no. Tu hai minacciato, mi ha minacciato il tuo, tua madre. Perché tu l'hai messo in vendita, quello di Vittorio. No, quello queste... Vittorio, il suo culo l'ha salvato grazie alla madre, perché tutte le multe, lui ha intestato qualche società alla madre. Dopodiché le multe arrivavano a questa società e adesso la società è fallita, dunque tu non pagherai una mazza. No, ma se lei è morta, le multe erano sue, finché posso pagare le multe di un morto. Ah, certo, giusto, anche questo non è sbagliato. È mica sbagliato. Bisogna pensarci a non questa cosa qua. Sbagliata. Questa sarà stata una trovata di cicconi. Se avessi un nonno di 90 anni, sì, gli intesterei la macchina. Questa sarà stata una trovata di cicconi. Intestare tutto alla madre, così si spera che prima o poi, come è successo purtroppo, la madre muore prima di Vittorio. Purtroppo è successo questo. E arrivederci e grazie. Vabbè, comunque, ragazzi. Che vuoi fare? Comunque, qui si offrono 180 per il tuo culo. No, ma 180, ma si può mettere secondo te in vendita qualcosa, secondo te, del proprio corpo, sì o no? Guarda, la questione della legge su cui mi sono inimicato da una parte del mondo gay è molto chiara. Io ho detto, un figlio ha un diritto superiore a un genitore. Il genitore non ha il diritto di essere padre, ma il figlio ha diritto ad avere un padre e una madre. Questa cosa vuol dire, tu hai detto anche un figlio non nasce dal culo, dai. E infatti, appunto. Vabbè, ma quello è normale, è scontato. Devo chiudere, Vittorio, la prossima volta, ciao. Amici miei, siamo al flop. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. L'Europa al bivio greco, con Radio 24, nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Dai domeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara. Dopo 4 anni passati a convincere la mia ragazza che il poliamore era la cosa giusta da fare, bene, dopo 4 anni si è convinta, è 2 settimane che va a letto con un altro e io ci sto di merda. Siamo veramente al flop. Allora ragazzi, ma al di là di queste vicende qui, al di là delle vicende dei 200.000 euro, al di là delle frasi di Vissani, c'è un sacco di roba di cui discutere, Parenzo. Per esempio, mi fa andare ai matti questa cosa. Cioè, io non ci posso credere. Sì, è importante, per carità. Caspita. Non ci posso credere, sì, però che c'è da dire? Cioè, non c'è roba su cui commentare, no? Non è che possiamo fare le analisi sulla Libia. Poi vediamo se succede qualcosa di molto, molto importante nei prossimi giorni. Guerra, eccetera, eccetera. Poi ne parleremo. Vedremo. Guerra. Però, tu ti rendi conto di cosa sono capaci i sindacati italiani? La Reggia di Caserta, amico mio. C'è un signore, il direttore della Reggia di Caserta, il neo direttore, che si chiama Mauro Fericori. Pare che sia bravissimo, io non lo so perché non sto lì, non so dire come lavora, come non lavora. Solo che c'è un particolare: lavora. Cioè, questo è il particolare. Cioè, vuol far lavorare la struttura, insomma. No, sì. Lavora fino a tarda ora. Senti i sindacati insieme. Tu non sei un cazzo perché ti occupi dei ragazzini in questi giorni che ti cagano addosso. Però la cosa principale è questa: non lo fanno, sì, però, ti cagano addosso. Sicuramente cagano addosso. Quello, cioè, non lo fanno. C'è una foto che circola su internet con te, che sei chinato. Hanno fatto un fotomontaggio meraviglioso con un bambino sulle spalle e con la merda che ti cola sulla schiena. Sì, I soliti miserabili. Ma no, ma è meraviglioso. Ma è stupendo. Ma prendila. Ma tu non hai mai cambiato un bambino? Ma prendila, ma come no? A voglia, cioè, mi sono sporcato di merda mille volte. No, ma è bellissima, ma no, questa foto. Mi sono sporcato, cioè, ma sì, un po', dai, bisogna sporcarsi. Ma mai ogni capitato? Tanto. Fa bene fatto la pipì sul maglione. Fa bene sporcarsi di merda ogni tanto. La merda dei ragazzini fa bene. La merda del proprio bambino, del proprio figlio, fa benissimo. No, quello che mi è mai capitato, ho detto, mi ha fatto la pipì addosso. Dovresti farlo. Ah, già vero, perché ci sarà la tata che lo fa, scusa. No, cioè, che è Ucraina? No, lo faccio io. Ucraina tutte le mattine, russa? Ma... Che cos'è? Ucraina russa? No. Cos'è? No. Filippina? Cosa avete a casa? No, di che nazionalità è? Non so, questo non so. Ma come non lo sai? Lo sai benissimo di che nazionalità è? Non so, no, lei non gradisce che si parli di ma lei, la no. Nazionalità! La nazionalità, no, chi se ne frega? Che cos'è? Filippina? È italiana. Ah, italiana, ma non è vero, non è italiana. Figurati se è italiana, pulisce la merda a tuo figlio. Ma quando no, mai? Infatti, è di più, è un pezzo della famiglia. Appunto, non è che nazionalità è? È italiana ancora. È italiana, dici? Ma come dico? Vabbè, ma che pensavo non fosse italiana? Allora, no, torniamo ai sindacati, perché mi fai sempre derapare, mi fai sempre sbicolare. Allora, comunque, guarda la questa foto. Tu sei chinato lì, c'è un bambino. Ma dove si trova? Sulle tue spalle. Ma non lo so, ma se tu non vai in nella giro. Nella rete, no, ma io non però. C'è scusa, la merda che ti cola. Ma non perdo cola tempo, sulle però, a guardare queste robe dei miserabili. Di gente che non ha niente da fare, peraltro. Tutto il giorno, gente che non allora, fa niente. La Reggia di Caserta, signori miei, la Reggia di Caserta. Abbraccio fortissimo questo tizio che non conosco, comunque l'abbraccio a prescindere, che si chiama Mauro Fericori, dall'agosto scorso numero uno della Reggia di Caserta, e ha lasciato la sua città a Bologna, il lavoro in comune per andare alla Reggia di Caserta, cosa che non è facile, magari ha preso più soldi, non lo so, credo di no. Comunque si è sobbarcato, figura, andare a che fare con i dipendenti della Reggia di Caserta, tu ti rendi conto? Gente che non fa un cazzo dalla mattina alla sera, per una vita non ha fatto un cazzo dalla mattina alla sera, e che probabilmente arriva uno da Bologna e dice tu devi lavorare, tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro, gente abituata alla grande pacchia, no? Ebbene ragazzi, la pacchia è finita! È finita la pacchia, è finita. L'ha detto pure Renzi, però la pacchia è finita. Attenzione, mi sono sbagliato, l'ha detto pure Renzi oggi. Certo. Contro i sindacati, perché i sindacati che cosa hanno scritto? È veramente incredibile quello che hanno scritto. Il direttore permane nella struttura fino a tarda ora. Così il direttore permane. Così hanno scritto un comunicato. Sì, ho visto. Una lettera inviata a cosa? A Franceschini. Sì, ho visto. Il direttore permane nella struttura fino a tarda ora senza che nessuno abbia comunicato e predisposto il servizio per tale permanenza. Un comportamento che mette a rischio l'intera struttura. Allora, io non so da chi dipendano questi signori sindacalisti. Perché è un comunicato comune di alcune sindacati scatenati che screditano il sindacato. Ma no, il sindacato è così. Questo è il punto. Il sindacato in gran parte dei casi è così. Queste sono persone che screditano il lavoro del sindacato, allora, e contribuiscono i capi, a gente come te che non vorrebbe i diritti dei lavoratori. Ma questi sono i capi di queste sigle sindacali. Ma sì, ma dovrebbero che sigle sono poi? Cacciare da un Adesso i responsabili di questa lettera. Adesso, chiaro? Allora, io non ce l'ho, però sembra che ce l'ho col presidente della Camera. Ogni volta si può anche stare zitti, toglierei però. Sembra. Nella vita si può anche stare zitti. Noi non possiamo stare zitti, io in particolare. Beh, anche lei attenzione, lì ci vorrebbe una clausola. I presidenti della Camera, secondo me dovrebbe essere inserita una cosa del genere. dopo l'esperienza drammatica della Boldrini, bisognerebbe inserire una clausola: i presidenti della Camera possono parlare una volta al mese. Una volta al mese è già tanto. No, una ma volta tra l'altro il presidente del Senato invece sembra non esista, ma, cioè il paradosso benissimo, anche questo, ma anche giusto, l'ottimo presidente giusto della Repubblica. No, ma infatti voglio certo fare un elogio pubblico al dottor Grasso. Dottor Grasso, dici chi è? Dici Grasso, Aldo Grasso, ma dice, no, quello è il critico del esatto, Corriere, più conosciuto dice, Aldo Grasso. Giorgio Grasso, no, esatto, chi è? Quello lì è il simpatico Giorgio Grasso che la gente, le masse ancora non conoscono. Beh, uno dice, poi dici scusa, ma come si chiama la terza carica? Ce l'ho sul punto della lingua. Grasso, ma no, quello è il critico del Corriere. È il secondo. No, veramente. Giorgio, quello è critico d'arte, amico di Sgarbi. No, Grasso, il presidente del Senato, non si sente mai. Ma Boldrini, benissimo così. Cioè, sì, giusto, no, così. Cioè, Grasso non dice quasi mai vai ai convegni, mai, dice mai, qualche ogni cosa. Tanto un convegno, ma parla su qualsiasi cosa. Di Vendola, dell'utero in affitto. Prima dice che prima lo condanna, poi dà solidarietà a Vendola. Dice che va bene quando è gratis e non quando bisogna pagare. Cioè, entra in cose che fa il presidente della Camera, state zitta. Oggi ne ha detta un'altra. Oltre ad essere tornata sulla vicenda dei nomi al femminile, che non ti riproporrò perché è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa minchiata, ha detto un'altra cazzata, era non so dove, credo a Bergamo, e ha detto, beh, ogni volta che c'è un femminicidio bisognerebbe esporre le bandiere a mezz'asta. Adesso tu ti rendi conto di questa cazzata ma enorme? Ma pensavo di peggio, una... insomma. Ma cosa c'entra? Ma perché dobbiamo pensavo esporre le bandiere? Pensavo di peggio, ma insomma va il bene, femminicidio penso non esiste, è un omicidio no, come un altro, è un omicidio come un altro, è una cosa gravissima. Con l'aggravante della non violenza c'è, sulle donne. Per fortuna non viene fatto, non c'è nessun aggravante dell'omicidio sulle donne. Ma che male, che nessuno ammazza una donna dei più anni, male. Ma che sei impazzito? Sei. Credo che sarebbe un segnale importante, immaginate che tutte le istituzioni concordassero che ogni volta che una donna viene uccisa in quanto donna, quindi vittima di femminicidio, si espongano le bandiere a mezz'asta in segno di lutto. Immaginatevi quanto sarebbe forte questo messaggio. La gente si spaventa, il messaggio delle bandiere a mezz'asta. Già tanto che la gente alza gli occhi in alto. Cioè, figure se oh, ci sono le bandiere a mezz'asta, ammazziamo meno donne. Ma uno può sentire dal presidente della Camera queste cazzate? Ma perché? Perché? Vado ai matti, io vado ai matti. Ma stai sì, zitta, no? No, ma, inutile, ma perché uno problema deve parlare per forza? Pensavo non c'è peggio, bisogno. Ecco, poi pagano capi della comunicazione, uffici stampa e poi uno dice una cosa del genere. Ma pagateli meglio, non pagateli, anzi, no. Mamma mia, oh. Vincenzo dalla provincia, anzi no, Paolo, provincia di Alessandria, vai. Roba incredibile, sì, vai, vai, dimmi. Ascolta, era solo per confermare quello che diceva Vistani. Io ho assistito in prima persona alla ragazzina tra i 15 e i 16 anni, aveva poco credito nel telefono, ha mandato un messaggino, è arrivata la risposta, lei ha rimandato un altro messaggino, ok, confermato. A chi questo qua? A chi l'ha mandato? A te? Aspetta, io non sapevo a chi. Si è lamentata di non avere soldi nel telefono, manda un messaggio, ok, arriva la risposta, ok, chiede di andare nel bagno, eravamo in un locale privato, chiede di andare nel bagno, sta nel bagno due minuti, esce fuori, arriva l'ennesimo messaggino, tutto bene, chiediamo cosa ha fatto. E lì è venuto fuori il pandemonio, perché praticamente... Però, scusa, io non ho capito bene, Paolo, uno quando interviene però deve siccome si sta parlando di cose molto delicate... tu devi adesso abbiamo la pubblicità, dopo la pubblicità mi spieghi bene gli attori di questa vicenda, dove eravate, dove non eravate, perché io per esempio non vado mai in posti dove ci sono ragazzi di 15 anni, non mi capita mai per caso, cioè magari non ci vado, ma no, perché spesso i locali sono diversi quelli che uno frequenta, magari in una cameriera, non lo so, non ho idea, però se uno non mette insieme protagonisti, no, soggetto, verbo, complemento, azioni, cosa succede, cosa non succede, non si capisce nulla. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in Digital Radio. La Zanzara. Ciao simpatiche canaglie, siamo tre montatori toscani a lavorare a Sydney, Australia, per conto di un'azienda italiana che esporta la tecnologia nel mondo. E la sera ascoltiamo la Zanzara in podcast per sentirci un po' a casa. Sydney, Australia, Parenzo. Molto bene, ti dovrebbe dare la carica questa roba. Comunque, ragazzi, sono felice di andare in Australia. Bene, la tua voce in Australia. La tua voce in Australia, però qui c'è la questione animalisti. Poi torniamo con Paolo dalla provincia di Alessandria. Torniamo subito, resta lì, Paolo. Ci devi spiegare tutto sulla storia delle minorenni, il bagno, i messaggini. Non ho capito bene. Allora, gli animalisti. Cracco oggi ha risposto a questi deficienti che sono andati a rompergli le balle sui piccioni, dicendo: io cucino piccioni da 35 anni, certo non siete voi a proibirmelo. Ha detto anche però: io sono vegano due volte a settimana, che non significa un cazzo in realtà, caro Cracco, te lo dico, perché o uno è vegano oppure no, non è che sono vegano due volte a settimana, che lo fai per sport così. Cioè, il veganesimo è una cosa che si pratica 7 giorni su 7, non è che puoi dire io sono vegano 2 giorni a settimana. Per 2 giorni a settimana non mangi carne e pesce, cioè semplicemente questo, non è che sei vegano 2 volte a settimana. Non esiste questa cosa. Però voglio farti ascoltare, caro Parenzo, quello che ha detto la signora Biancofiore. Sì, la signora Biancofiore, amico mentre accarezzava mio. Il suo adorato cagnolino, il suo Carlino. Te la ricordi come si chiamava? Peggy, come si chiamava? Peggy, quella che cantava Lina di Forza Italia. Meno male che Silvio, sì, c'è qui alla Zanzara Peggy. Una volta, signora Biancofiore, era anche in ufficio all'epoca quando era sottosegretario, si incazzarono parecchio. Grandi imprese qui alla Zanzara sono accadute, e accadono ancora. Signora Biancofiore, senti. Quando penso che ci siano persone che hanno il coraggio di guardare negli occhi o anche a breve distanza un essere vivente e sparargli in fronte, al petto, eccetera, io mi sento male, inorridisco io, perché da lì ad ammazzare una persona non ci vuole molto. Allora noi abbiamo fatto l'esperimento opposto, ci siamo immaginati. La mia, la quale è semplicemente freddolosa, e quindi le metto i cappottini perché fa freddo, poi lo sbalzo d'aria tra Roma e Bolzano è notevole. Ovviamente cerco anch'io di comprarle i cappottini più sfiziosi, essendo poi un cane molto buffo, molto simpatico. I cappottini al cane. Vabbè, i cappottini. Se gli passa piace da così. Bolzano a Roma e mette i cappottini. Ma scusa, al ma cane. Il cane che cappottini. Sta a Bolzano. Io vado un cane matti, che nasce io a Bolzano. Io vado ai matti i cappottini, vado ai matti. A proposito, bisogna fare gli applausi alla signora Rosita Celentano, che secondo informazioni che vengono da gossip vari, web, no, dall'interno, no, da internet, magari non saranno confermate, e convolerà a nozze con il suo amico co-conduttore della trasmissione, il signor Baira. Facciamo gli applausi a signora Rosita Celentano. Io all'inizio pensavo... È un amore nato dietro il microfono? Ma no, già da prima, credo. Ma non mi interessa, adesso questi sono cazzi loro. No, ma la cosa è fondamentale... Ma questo è una bella notizia. Sì, assolutamente una bella notizia. Io all'inizio ho letto su internet, no? Rosita Celentano si sposa. Ma non vuol io... dire che Milan si sposa con Giannino, ad esempio? No, beh, no, non so questa... chiedo, sì, no, questa potrebbe essere un'evoluzione, diciamo, faccio della, dire, della so. Conduzione radiofonica. Chiedo. Sì, sì, questa Bellasio è interessante. Con la signora... Cagnola, sì. Con la mente Marta Cagnola. Beh, no, lascia bene, Bellasio c'ha già troppi cazzi, figuriamoci. No, ma io all'inizio, quando ho letto Minoli con Buttafuoco, non lo so adesso, quando lo chiedo, all'inizio ho letto so. Rosita Celentano si sposa, mi sono domandato: ma con chi? Con un cane? Forse? No, beh, vabbè, beh, perché no, con un cane. Lei pensa che i cani siano uguali agli esseri umani? Uno si può sposare anche con un cane, perché fanno a Las Vegas, fanno anche matrimoni con i cani, credo. La signora Biancofiore dice anche che da cacciare ad ammazzare una persona il passo è breve, cioè se tu sei cacciatore, ma in realtà invece hai nella testa anche la possibilità di ammazzare una persona. Quando penso che ci siano persone che hanno il coraggio di guardare negli occhi o anche a breve distanza un essere vivente e sparargli in fronte, al petto, eccetera, io mi sento male, non ridisco io, perché da lì ad ammazzare una persona non ci vuole allora molto, perché fatto un essere vivente opposto, titolare ci siamo di diritti soggettivi. Cari amici cacciatori, i vostri nemici aumentano in Parlamento, prima o poi vi faranno fuori loro, cioè vi faranno fuori loro a colpi di baionette in realtà, cioè un cacciatore è un potenziale assassino secondo la Biancofiore. Ragazzi, siamo veramente, ma veramente alla follia. Eravamo con Paolo dalla provincia di Alessandria, che ha chiamato all'800 24 00 24, sempre 393 71 71 701 per i vostri WhatsApp vocali. Paolo, allora dimmi un po' com'è la situazione, le bambine, i messaggi, le cose, com'è? No, bambine, ragazzina. Beh, 15 anni, bambine, sì, io chiamo bambine, mia figlia ha 10, la mia bambina sarà pure a 15, abbi pazienza. Ok, se tu la vedi capisci perché ti dico no bambina. Comunque, all'interno di un salone di bellezza, parrucchiere, facevano un po' di tutto. Ok, c'è questa qui con l'amichetta. Ok, sono senza soldi sul telefono, manda un messaggino. Ma chi è senza soldi? Lei? La ragazzina. Ma tu come l'hai saputa queste cose? L'ha detto presente? Lei. Sì, ero lì. Ma che ci stavi a fare il parrucchiere? C'era tua moglie? A tagliare i capelli. Ah, ho capito, parrucchiere anche maschile, sì, ok. Sì. Manda il messaggino, sono senza soldi, manda il messaggino. 2 minuti arriva l'altro messaggino, posso andare in bagno. Va in bagno, sta in bagno 2 minuti, esce dal bagno, arriva l'ennesimo messaggio, ah ok, tutto a posto, la guardiamo, cosa è successo, com'è, perché qui e là, tira fuori le foto che ha caricate sul cellulare. Che foto erano? Foto di lei in vari atteggiamenti, posizioni, da sola in compagnia dell'amica che era lì presente. Beh, foto con lei. Erotiche, otto, diciamo. Molto, ma proprio molto erotiche, molto otto. Molto allora erotiche, e ci spiega tutta la questione. Praticamente lei, quando ha bisogno di soldi, avvisa, manda il messaggino al giro di clienti, perché non è uno solo. Non che è si uno accontentano solo delle foto, oppure fanno anche altre cose? No, fanno tutto. Fanno tutto. Tu ci stai dicendo che hai assistito sostanzialmente, esatto, hai assistito sostanzialmente a un episodio acclarato, chiaro, per il racconto di questa ragazzina di 15 anni, di prostituzione minorile. Questa è la sostanza. Sì. Amico mio, ma perché non sei andato? Denunzi tutto, vai dai carabinieri. Aspetta, però mica è obbligatorio andare dai carabinieri, non lo so, io sarei rimasto colpito. Cioè, tu stai dicendo delle ragazzine di 15 anni, cosa noi magari ci stupiamo, però direi. Però non dovremmo stupirci, magari succede, cioè succede. Male. No, ma malissimo. Sì, malissimo, malissimo, non queste ragazzine di 15 anni, chi se ne frega, ognuno fa quello che vuole nella vita. Malissimo chi consapevole che queste qua hanno 15 anni paga per sesso, evidentemente, Paolo, no? Sì, ma per sesso e anche situazioni particolari. Cioè, in che senso? Ci racconta che sono un gruppo di amiche, sono quattro quelle che praticano questa attività, sì, che vanno anche a feste tipo compleanni, addì al celibato, serate particolari, accompagnano gente a cena. Ma le persone sono consapevoli, gli adulti evidentemente, consapevoli della minore età, i 15 anni, 16 anni, sì, 15 sì, anni. Sì, quanti sì anni hanno queste ragazzine? 15? All'epoca si parla di 5-6 anni fa, erano tutte minorenni. Ma stai parlando di 5-6 anni fa? Stai parlando di 5-6 anni fa? Sì. È la cosa a cui ho assistito io. 5-6 anni fa queste qui facevano così. Adesso sono un po' più grandi, sì, e probabilmente continuano a fare quello. Va bene, allora che vuoi dire per questo? Non ho capito. Questo racconto per dire cosa? No, siccome c'è stata lo sì, ma il problema, con la frase di Vissani. Sì, ma il problema non è in questo caso la ragazzina. La ragazzina sono gli adulti. Probabilmente che la ragazzina può anche stimolare. Ognuno può fare quello che vuole, anche a 14-15 anni, può anche stimolare le cose, può anche mandare dei messaggi a qualcuno, oppure può rendersi disponibile. Il problema è sempre dall'altra parte, no? Cioè, l'adulto, dal punto di vista della legge, è un altro. O sbaglio, Paolo? Tu invece pensi che l'adulto sia in qualche modo incolpevole o comunque innocente? Incolpevole no, però sicuramente io adesso ho 41 anni. Probabilmente quando ne avrò 55 magari la vedrò diversamente. Adesso io, se la ragazzina a me si offrisse, la manderei a cagare a una figlia di 10 anni. Vabbè, ma che c'è tra avere un figlio o non avere figli? No, ho una figlia di 10 anni, non mi verrebbe in mente di andare con una di 15. A prescindere, non è che chi ha i figli, sì, probabilmente è più sensibile, ma insomma... Non, beh, sì, sì, vabbè, poi, però non è detto. Il 55enne probabilmente... Ma io questo dico che vuoi dire? Che questo è come ragionamento sulle cose, però è come ragionamento sulle minigonne e lo stupro. Cioè, non è che se, perché no, uno ha 50 anni, quella ce n'ha 16, no, no, fa un po' la smorfiosa, tu dici, la colpa è sua. Non fa la smorfiosa. Non è fare la smorfiosa. E che fa? È offrirsi. Ma che vuol dire? Ma anche se ti offri, ma non c'entra niente, sei tu che devi essere consapevole. Ma sicuramente, ma io sono di quell'idea lì. Ho capito, però anche queste ragazzine andranno, no, in qualche attenzione, che ne so io, attenzionate sicuramente, segnalato ai genitori, ma che roba è evidente. Questo dice il signore. Ti potrei anche dire che sono anche di famiglia benissimo, non di famiglie con problemi. Vabbè, ma quello non vuol dire nulla, infatti. Va bene, ciao, Mario da Roma, Mario. Buonasera a tutti. Sì. Io volevo parlare delle adozioni. Dimmi Mario, dimmi. Ah, diciamo, in generale la mia opinione non consolidata è di contrarietà. Per il semplice fatto che... Ma l'adozione di che cosa? Scusa, quali adozioni? Dei gay? Delle coppie, sì, esatto. Sì. Allora? Cioè tu in generale sei contrario, vabbè, d'accordo. Poi... Il motivo è che per me uomo e donna sono diversi. Ma no. Però quindi anche madre e padre... Sono due figure diverse e un bambino. Non me ne ero accorto, sai. Però guarda, sto cambiando idea. Ci voleva lei dopo tutte le discussioni di questi mesi. Mario da Roma, da 2 settimane, parliamo solo di questo praticamente. Arriva Mario e dice, uomo e donna sono diversi. Il motivo l'ha chiamato un altro. Ho sentito Alfano trionfalistico, abbiamo evitato una cosa contro natura. Sì. Io invece ho sentito dire da Nicoletti a Melog che un singolo individuo, frocio o non frocio, sposato o no, convivente con uno stesso, può adottare un bambino con gravi disabilità. Ma questo non lo so, Quindi, ecco, io l'ho sentito sulla Vabbè, allora? Allora? Allora, a una persona, senza indagare, diciamo, che tipo di persona sia, omosessuale o eterosessuale, gli si affida un bambino difficile, una grossa responsabilità. Cioè, non ho capito, Mario. Non ho capito. Tu stai dicendo. Un individuo può adottare un bambino. Va bene, allora, dopo che ci ha dato questa informazione, dunque? Allora, perché diciamo si dà questa responsabilità a un singolo individuo che potrebbe essere anche omosessuale, convivente? Non lo so, adesso non voglio aprire una discussione alle 19:45 del venerdì su chi può adottare più Mario, abbi pazienza. Questa cosa è consentita al singolo Ma non lo so, in alcuni casi... Ma non lo so, Mario, chieda informazioni da qualche altra parte, non lo so, e dunque... Io sto chiedendo, sto dicendo, è così, c'è questa possibilità. Vabbè, e dunque tu sei sconvolto da questa possibilità. Però è scandaloso a questo punto che si neghi la possibilità ad una coppia omosessuale di adottare un bambino normale. Va bene, Rosario, normale che vuol dire? Scusa, non ho capito perché. Senza disabilità. Ma perché gli altri che sono disabili che sono normali? I bambini disabili con gravi disabilità vengono dati in adozione a chiunque. Va bene. Quelli normali... alle coppie normali. Va bene, Rosario, questa non è la discussione su Rai 3 sulla disabilità. Rosario da Taranto, vai. Ma tu chi sei? Sono Giuseppe, dimmi. Giuseppe Cruciani, dimmi. Tu chi sei? Chiama, saprai. Rosario, che fatica, dai. Rosario, chi sono? Mi chiamo Giuseppe Cruciani, faccio il conduttore di questa trasmissione. E si è venduto per 200 chi mila. Chi mi crede di essere, dico? Ah, è arrivato quest'altro, vuole fare casino. Chi è questo? Chi mi credo di essere? Faccio il conduttore di una trasmissione, diciamo, di buon successo, di gran successo. Punto e basta. Conduttore radiofonico, insomma, amo la radio, amo fare questa trasmissione. Rosario, che mi vuoi dire? Che voglio dire? Sempre quello è il punto, vorrei partire da un punto. Siccome tu a quelli che non ti conviene non li giudi subito, no? Allora io potrei essere uno di quelli sicuramente. Io parto sempre da quel punto. Tu chi ti credi di essere? Parenzo, fai qualcosa anche tu, ti prego. Agisci anche tu, ti prego. Ma non riesco a capire dove vuole arrivare. Fai qualcosa anche tu, ti prego, ti scongiuro. Fai qualcosa anche tu. Fai qualcosa anche tu. Non riesco a capire dove vuole arrivare, non capisco niente. Cioè, se articolassi. No, non vuole dire chi mi credo di essere. Vabbè, ho detto benissimo, critica giusta, avanti. Dunque. Ma non ce la fai a parlare da solo, hai bisogno di chiedere aiuto a qualcun altro. Vabbè, questo è malato, dai. Ma no, ma di che cosa vuoi parlare, però? È questo che non si capisce. Oppure insultalo per bene, fino in fondo. No, è di questo. Vedi, tu parli ma allora insultalo! Non sei ancora con chi stai parlando, sei malato. Cioè, se ti rendi conto? Ma scusa, tu hai tre volte che ti diciamo inizia a parlare, e tu l'unica cosa che sai dire. Ma chi ti credi no, di essere? Perché tu non lo sai neanche tu chi sei. Ma chi ti credi di essere? Lo sai. Fai la ripetizione in che senso? Che sia questa ripetizione stupida? Che ti credi così liberale, ti credi così libertino. Rosario, il fatto stesso che tu parli qui in libertà, cioè che è una cosa, diciamo, che ha una sua. Ma tu questo deve sembrare. Che ha una sua rilevanza il fatto che tu parli qui in libertà, perché non ti sarebbe concesso in nessun altro luogo, credo, del a me, che me ne frega? Tutto quello che avevo da dire, già gli ho detto a quello che mi ha risposto prima. E che ha perché detto? Siccome ti ascolto di tanto in tanto, no? E tu a quelli che sei così arrogante, a quelli che non ti conviene li chiudi. No, veramente non ti sto chiudendo. Quello che gli avevo da dire, gliel'ho detto già. Quindi e che hai detto alla signora alla reception? Cosa gli ho detto? Che tu sembri che sei così liberale. E invece con questa idea. Di fondo sei un razzista. Sono razzista. Che neanche tu lo sai. Tu giorni fa parlavi del diavolo, no? Dicevi, ma esiste il diavolo, che è il diavolo? Tu sei figlio del diavolo. Oh, questo. Con questo qua direi di mettere la parola fine a questa telefonata. Magari poi ci divertiamo più avanti, Rosario. Ma maledetto il giorno, io dico che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione. La Zanzara. Allora ragazzi, è con noi. Attento, mi ha appena scritto l'ottimo Luca Sommi che dice. Chi è Luca Sommi? Scusa, non lo conosce nessuno. Scusa, beh, non lo conosce nessuno. Scusa, con tutti, dottor Luca Sommi. Non lo conosce nessuno. Intellettuale, ex assessore a Parma, autore di Fuori Onda. Sì, come no? Sì, allora. Ma grande intellettuale. Mi vabbè, scrive, ma se lo dici po'... così, mi ha scritto Luca Sommi, pare dottor... che ti ha scritto Trump. No, ti ha scritto il signore, siamo Luca Sommi. Luca Sommi, con tutto il rispetto. Comunque mi scrive, tra un po' vi telefonerà una scimmia. Ma che ascoltatori avete? Muoio dal ridere, ma questi sbucano dal subumano elegantissimo il signor Luca Sommi. Invece, tra un po' vi chiamerà una nutria. Bene, ottimo. Magari. Una nutria che vuole sposare invece un alce. Abbiamo il protagonista di una delle polemiche di queste ore, diciamo. Sì. Gianfranco Vissani, buonasera. Molto bene. Davide, Giuseppe, ma siete lì, sempre lì attenti. Siamo sempre qui a rompere i coglioni a tutti al mondo. Bravo. Allora, non nascondiamo la nostra amicizia con Gianfranco. No, mai, quella mai. Io soprattutto poi, oltre a essere amico di Gianfranco, ho anche una piccolo particolare, che sono di mezzo orbietano. E che c'entra questo? Ma questo c'entra, è importante. Gli Umbri è gente tosta. Proprio sei un uomo di terra, no, legato gli Umbri è gente, a rapporti è gente, come ha terra. Detto Gianfranco una volta, è gente arcigna, spesso considerata antipatica, e sicuramente è così. Arcaica, un po' così, siamo un po' orsi, diciamo la verità, siamo un po' così. Però dimmi la verità, Gianfranco, che ti è venuto in mente di quella cosa ieri? Cioè, no, si parlava di prostituzione. Lo so, io forse sono amico andato mio. Fuori binari dicendo, ma io ho detto solamente provocare. Oggi la vita moderna, le generazioni sono cambiate, non è più quello di una volta, ho detto solamente provocare e basta. No, tu hai detto, sono più le minorenni che danno fastidio, non quelli che vanno con loro. Vabbè, amico mio, c'ho l'audio qua. Danno fastidio? Sì, sono più le minorenni che danno fastidio, non quelli che vanno con loro. Questo hai detto. No, io ho detto provocare. Amico mio, ti faccio ascoltare se vuoi. Hai detto, sono più le minorenni che danno fastidio. Vabbè, lasciare dare fastidio e provocare è la stessa cosa. Sono più le minorenni che danno fastidio rispetto a quelli che vanno con loro. Io ho detto la parola provocare. Provocare, perché io non sono pedofilo, prima di tutto. Non sei pedofilo, nessuno dice che sei pedofilo. Sei mai andato con ragazze? Provocare. Le generazioni di oggi sono cambiate. Sì. Sono cambiate, forse la moda, forse le occhiate, forse quello che ti pare. E allora? Ma c'è un discorso diverso, cioè, hai capito completamente? No, non ho capito. Allora, tu dici, sono... perché... Lui non parlava della prostituzione, intanto questo era chiaro. No, evidente. Ma io quello non... Era io chiaro. Ho capito, però in quel programma lì si parlava di prostituzione, Gianfranco. Il discorso era la prostituzione. Tu ti sei inserito per dire, sono più no, le minore... No, io mi sono inserito perché arrivano dal dal Sudafrica, arrivano dall'Algeria, arrivano rumeni, che c'è una prostituzione in Italia per non vuole stare. Va bene, d'accordo, quello va bene, d'accordo. Però tu a un certo punto hai detto sono più le minorenni che danno fastidio, non sì, quelli... ma era un altro capitolo, evidentemente, un altro ragionamento, ragazzi, su un'altra cosa, evidentemente. Un altro ragionamento, sì. Dico, forse dovremmo, dico, vediamola. Io sono andato a finire su quella cosa lì, perché, ma non è che intendevo le minorenni, io non intendevo donne in genere. No, tu hai detto le minorenni, sono più le ragazzine che danno fastidio, non quelle. Le ragazzine che sono quelle che praticamente provocano. Oggi la vita. Ma perché provocano? Scusa, non ho capito. Perché magari forse è la moda pure, forse magari sono le generazioni cambiate. Ma io ho avuto un'impressione, ti è capitato di essere provocato da qualche minorenne? Io ho avuto questa impressione. No, no, sì. No, minorenni si intende 16, 17, 18 anni. Quello, ti è capitato di essere provocato da ragazzine del genere? No, assolutamente, perché a me non mi interessa, perché io non ci vado, io proprio, è un coglione chi ci va, cioè certo. Capisci, ti voglio dire. Cioè un coglione chi va con una di 16 anni? Sì. Sì, anche se, come sai, se uno va insieme a uno dei 16 anni e c'è la in maniera consapevole, non è vietato dalla legge. No, no, ma a me non mi interessa. È un coglione chi ci va, però insomma, io. Cioè, chi va con una sedicenne, con una diciassettenne, secondo te è un coglione? Se ha 40 anni, sì, direi. Sì, anche 30. Io, secondo te, uno di 50 anni o di 60 anni può andare con questa gente. Cioè, bravo, certo. Bravo. Scusami, giusto. Ho capito, ma perché tu dici che spesso sono le minorenni che danno fastidio a quelli più grandi? No, vedi che c'è stato qui un aggancio un po' sbagliato. No, c'è uno... provocano, c'è una provocazione, ma quello ho detto, cioè, provocano quando vanno vestite, ragazzi, scusate, le incontriamo sì. Tutte per strada che sono diciamo vestiti un po' avanti, e la moda, il taglio della moda, cioè la minigonna, dici, la minigonna, no, il pantaloncino, la camicetta attillata, sono più disinibite, dice, rispetto a qualche sì, generazione rispetto, fa, questo cioè, è ragazzi, vero, e questo, scusa, è questo 70, che mio padre mi dava gli schiaffi in faccia, e questo che significa questo che significa, Gianfranco, cioè che è cambiato il modo di vita, no, d'accordo, che il modo di andare, il modo di vestire, secondo te provoca la reazione? Beh, insomma, è molto provocante il vestire, cioè, il vestiario su una donna, scusate, cioè per esempio che ne so, anche lo stupro può essere provocato da una cosa del genere? No, questo non lo so, questo io non lo so, che ne so, te lo domando. Ah, Giuseppe, non mi fa domande, io non lo so, mica sono uno che va a guardare la mente di queste persone. No, secondo te alcuni casi di violenza nei confronti delle donne possono essere provocate dal modo di vestire delle ragazze? Non ci sono più i valori, però, scusami, cioè. Io voglio dirti, non ci sono più i valori. Cioè, io ho detto pure che alla base principale c'è una famiglia. C'è la famiglia, è d'accordo. La famiglia, quella che distribuisce i consensi, è quello che le figlie, quando vanno in giro, dovrebbero controllare. Noi ci dobbiamo controllare tutte questi figli. Perché tu dici c'è il mondo pieno di droga, c'è il mondo. Vabbè, questo vabbè, se non fare il prete, non è quello il no, punto. No, io il prete non devo fare, Giuseppe, non devo fare, però non vorrei che ci siamo sentiti. Io non ho detto niente contro le donne. Io, cioè, a me piacciono le donne, oh, ma che stiamo scherzando? No, ma che te ti piacciono le donne, su questo non c'è dubbio. Però il problema è un altro. Tu dici che se il modo di andare a vestire può provocare. Ma è vero che le ragazze oggi può provocare una reazione, tu dici, una reazione. La reazione, cioè, sicuramente dice, ma ammazza, dice, quella quanti anni ha? 18, ammazza, dice, quanto è bella. Ecco. E tu dici può provocare una reazione anche in alcuni casi di violenza? Ma no, adesso questo qui non lo so, Giuseppe, io non ho che io mi metto a fare. Cioè, però sarebbe meglio per tutti se le ragazze andassero in giro vestite più coperte. Beh, più coperte. Io capisco che siamo alla moda. Però? Io capisco che c'è la moda. Però dovrebbe andare. Magari teniamo, insomma, no. Vestiamoci meno tette di fuori. Ma tutto un insieme di cose, perché qui non sappiamo che cosa incontriamo in questo mondo. Dunque, come dovrebbero andare in giro? Meno, più coperte, diciamolo, più coperte. No, ma un po' più coperte, giusto, ma questo qui dico, ma non ci andranno mai, indubbiamente. Ma no, questo c'è. Fermo un attimo, c'è la pubblicità, poi torniamo che parliamo pure dei piccioni, fermi tutti. Gianfranco Vissani, però poi ti faccio riascoltare quello che hai detto, perché secondo me devi dire che hai detto una cazzata, perché un po' di cazzate le hai dette. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. La Zanzara. Avete rotto i coglioni con sto dente giallo del Cruciani, avete rotto i coglioni. Voleva parlare dei suoi capelli, lo shampoo, questo sconosciuto. Allora ragazzi, con noi il grandissimo chef Gianfranco Bissani, al centro di una polemica su alcune frasi che ti faccio risentire, Gianfranco, perché forse risentendole ti rendi conto di quello che hai detto. E a proposito, si parlava in studio lì a Tagadà, trasmissione della 7 condotta da Tiziana Panella, poi a un certo punto Bissani è stato aggredito dalle donne, aggredito in dalle donne presenti in studio, dicendo che è stato dipinto come una specie di mostro. È vero che ti ha mandato un messaggio di solidarietà a Sgarbone? Ascoltatemi, io non sentivo neanche il rientro di cuffia. No, ma è vero che ti ha mandato un messaggio di solidarietà Vittorio? Vittorio, Sgarbi, mi ha mandato un messaggio stanotte, sì. Sgarbi, sì, ma anche, ma quanti messaggi hai ricevuto? No, solamente Vittorio. Aspetta, no. ti faccio sentire sta cosa, aspetta. Sono più le minorenni che danno fastidio, non quelli che vanno con loro. Sono le minorenni che fanno le stupide. Ve lo dico io perché... No, io non posso stare, un ragionamento di questo tipo è veramente inaccettabile. Spero si sia sbagliato a esprimersi. Veramente inaccettabile. Si è sbagliato magari a esprimersi? Io? No, non lo so, cioè le minorenni insidiano gli uomini. Cioè sono le insidiano. Io dico che in Italia ci sono tante minorenni che fanno le stupide. Stupide veramente. Ma le stupide cosa vuol dire? Fanno le prostitute, vi insidiano? Beh, mi sembra molto chiaro Gianfranco, eh? Sono più le minorenni che danno fastidio che quelli che vanno con loro. Però io non volevo. Era un paradosso. Perché Tiziana ha spiegato, ma non sentivo rientro di cuffio, neanche delle donne che strillavano. E vabbè, ho capito, ma la frase resta allora quella. Voglio dire, dimmi. Io è vero, però non, io avrò detto però provocano, io avevo detto la parola che provocano, io ho detto questa parola qui. Che confermi, dopo, che confermi, provocano, provocano ci sono... ma forse la vita moderna, la vita che oggi si usa fare così, perché sono cambiate tutti i valori, non ci sono più valori, è chiaro che vabbè, insomma, non ci sono mai stati in realtà, secondo alcuni. Gli uomini intelligenti non vanno con queste ragazze. Sì, no, ma questo è abbastanza chiaro. Senti un attimo, ma dunque tu da un certo punto di vista potresti capire il marito della Mussolini, per esempio, che ha avuto quella... Ma io non l'ho seguita questa storia. No, quella vicenda con le giovani prostitute di Parioli. Gli è capitato di andare, secondo lui, inconsapevolmente, secondo il giudice evidentemente no, poi ha patteggiato con alcune ragazze, credo di 16-17 anni, che facevano le prostitute. Cioè, tu dici... Beh, insomma, queste qui, insomma, non è... Lo facevano sul serio queste ragazze? Beh sì, lo facevano le prostitute, sì, probabilmente cioè, costrette dalle madri o comunque insomma... Beh, insomma, anche ti ho detto che il valore della famiglia è importante su queste situazioni. Sì, ma io voglio capire una cosa, tu sei mai andata a prostituta in vita tua? No, mai. Mai, mai. E, ma non chi, ha bisogno, e chi va a prostituta? Mai. Ma chi va a prostituta secondo te chi è? Un miserabile come dice Parenzo oppure può succedere nella vita di andare a prostituta? No, è miserabile, forse magari... Quelli, molte persone sole che vanno lì, Sì, questo è vero, certo, ma io parlo di quelle soltate. Persone sole o molte persone che magari si sono interrotti i rapporti con la loro moglie. Ma veramente c'è anche gente che sta con la moglie e va a mignotte lo stesso. Lo so, ma sicuramente, ma bisogna capire perché vanno. Ma tu legalizzeresti tutto? Sì, quello. No, io non... Cioè, le io case chiuse le riapriresti? A me non mi piacciono sulle strade perché non si sa... se è cioccolato, se è cappuccino e da dove arrivano e poi sono sfruttate cioccolato e cappuccino non è questa malattia che si possono trovare tante malattie la casa di cura che la Merlino no? Mi sembra che l'ha tolte la Merlin, sì, la Merlin. La, ecco, però voglio dire anche cioè tu ci andresti dentro una casa tutta la vita io ci sono andato Cruciani ci è andato ma in Svizzera sono andato è diversa la cosa sì, no, è Svizzera, a me non piace la legalità in Germania dice, ho sentito ieri beh certo in Germania è un fallimento pagare le tasse sicuramente è un grosso business te lo dico io vabbè questo sicuro senti ma Masterchef l'hai visto la finale o no? No, non l'hai visto. Non la guarda, ma come sei andato lì ospite una volta, manco la finale hai visto. Ma che gli frega? Ho capito, Giuseppe, ma che pretendi a me? No? Ma che è tutto, maestro, ma è tutta, Vissani, è tutta una finta, secondo te? È tutto un imbroglio, no? No, finte no, non ci sono finte, però sicuramente è patinata, insomma, noi non vediamo tutti quanti i passaggi che vorremmo vedere. Considera che hanno 4 ore, 5 ore di tempo per fare un piatto. Cioè tu dici... Però, ragazzi, si danno da fare. No, beh, quello d'accordo, ma tu dici è tutta una roba. Cioè, è una roba sicuramente. Per la televisione, non è la cucina non c'entra niente. La cucina è un'altra cosa. Io poi l'ho lasciato pure un'intervista sul Fatto Quotidiano dove spiego assolutamente che la cucina è un'altra cosa. Ragazzi, Ma no, vabbè, ma questo non c'è dubbio. Cioè, quella roba lì, quella roba lì, quella roba lì è uno show televisivo, dici, che non ha niente a che fare con la cucina. È uno show. Senti, ma io non ho capito, ma Bastianic, cioè, sei ancora incazzato con lui? Dici che una volta hai detto che è diseducativo, che non è un cuoco. No, io ho detto, ma no, dai, Gio Bastianic è una persona. Io l'ho conosciuto 20 anni fa, in America. Mm. Era 4 volte adesso quello che è adesso. Era. Come 4 volte? Che vuol dire? Era grassissimo, era grasso, sì. Era grasso e ci siamo messi a parlare quando io sono andato a fare Linea Verde. Pensate voi, nel 2000. Vabbè, allora? Niente, però per farti capire che parlava così, ma la mamma sicuramente è la cuoca per eccellenza. Cioè tu dici non è un cuoco lui? No, no, no, lui è come si dice, businessman proprio. Marketing, sicuramente marketing, puro marketing. È molto forte su quello. Sicuramente non ci sono persone come lui. Senti una cosa, ma ti dico, ma i vegani, no? Cioè i vegani. Anzi, la storia del piccione. Il piccione in Umbria, io lo so, è una roba molto molto cucinata. Il piccione da noi è una cosa saggia. Quanti ne cucini tu? Ma io ne cucino, ce l'ho sul menù, dunque li posso cucinare. Ma sono di allevamento, attenzione. Vabbè, Ma certo, mica sono quelli che se Beh, mica sono quelli del Duomo di Milano, credo, no? Ragazzi, no. Che stiamo a scherzare? No, cioè quelli del Duomo di Milano non si possono neanche mangiare. Appunto, ma tu una cosa più strana che hai cucinato in vita tua, che hai cucinato? Lo struzzo, no. Il coccodrillo. Hai cucinato pure il coccodrillo? Fantastico. Sì. Ma com'è la cucina? Com'è la carne? Dove l'hai cucinato il coccodrillo? In America. E poi che hai cucinato? Ma il coccodrillo, lo struzzo, l'alligatore, insomma, ho cucinato parecchio, il come si chiama, il canguro, come no? Senti, ma sei mai stato la carne del canguro? Sei mai stato a caccia grossa? È tutta carne dolce, anche il coccodrillo è carne dolce. E il gatto l'hai cucinato qualche volta? No, che ne so, magari ti è capitato quando eri ragazzino. Lo stronzo l'hai cucinato, uno stronzo una volta, tipo Cruciani. Un Cruciani. Davide, siete una coppia. Guarda, ascoltami, dovete venire a mangiare, così vi faccio trovare qualche cosa di particolare. Fammi trovare una cosa contro. Senti, i vegani, quanto ti stanno sul cazzo i vegani? Dimmi la verità, dai. Cioè, No, ascoltami. Lasciami perdere. Ma quello c'è. Allora, ascoltami, io ho mio nipote che è ciliaco. Perché c'è quella, ma sì, ma ho capito, ognuno c'ha i suoi problemi. Cioè perché, e allora cerchiamo di accontentare tutti. Cioè, ho capito, perché essere vegano è un problema, dici? No, perché problema? No. L'unico problema che ci sta è che la gente crede ancora che esiste la farina di camut. Quello è veramente un grande problema. Perché non esiste proprio la farina di camut. Non esiste, è stato il più grosso bluff della storia. Per cui quando uno ti dice farina di camut, dovresti dire: senti, a cazzaro, a deficiente, mi pigliare per il culo. No. Ah, non esiste, che non lo sapevo. No, beh, questo è importante. Non esiste la farina di camut. È un marchio che non sapevano cosa fare. E poi la gente. E perché detto, non è, perché fa, cioè, ma se costa 3 volte tanto, sta truffa ancora in giro. Lo so, però non è. Dammi retta, non esiste la farina di camut. Capito? Non esiste la farina di camut. No, lo dirò perché un altro bluff, che c'è? Qual è un altro bluff pazzesco? Ma non so, adesso non mi viene in mente. Oltre alla farina io... di camut, dimmi un'altra cosa. Ma non so, adesso non mi viene in non mente. Non ti viene in mente. Senti, mi viene in mente, forse mi verrà in mente quando forse attacco il telefono. Ah, sicuro. Senti, quando è da solo uno chef come Vissari, cosa si cucina a casa? Perché ad esempio io mi faccio l'aglio, olio, peperoncino, no? Da solo a casa, ma uno chef. Ma non mangia mai a casa da solo. Ma mai. Guarda, io anche uno spaghettino pure parmigiano me lo mangio volentieri. Ma certo. Senti una cosa, ma invece Renzi quanto ti sta sulle palle, Renzi? No, Renzi è una... E mi sembra di vedere mio figlio, perché è la stessa sua età. Vabbè, ma che c'entra quello? Ah, veramente? No. Sì, alla stessa età di me. Vabbè, figlio. Ma non lo sopporti tu, Renzi, dai, diciamo la verità. No, non è vero. No. Guarda, ascoltami, tu ti vuoi girare quello che ti pare. No, Renzi sta facendo delle cose, spero egregie. Ma non è mai venuto a Baschi a trovarti, Renzi? Ma no, ma io prima o poi lo attendo con grande orgoglio. Ma tu cucineresti per Verdini? Per Verdini, sai che adesso Verdini si è messo con Renzi, no? Lo sai sta cosa? Per chiunque ti sta sulle palle da uomo. Verdini ti sta sulle palle da uomo di sinistra. Verdini è toscano, cioè Verdini è uno che mangia sicuramente tordi. Mangia i tordi, dici? Sicuramente mi piace la stagione. Perché è un cacciatore. Beh sì, a parte che è un ex grossista di carne. Ma tu sei mai stato in Africa a cacciare? No, io non è che caccio. Mio padre era un grande, diciamo, come si chiama, di trappole, le trappole. Ma l'elefante si mangia, ad esempio, l'elefante? Sì. No, io non mai, no, questo non ho mai mangiato. Però non io ti, mi ti immagino in una, a caccia grossa in Africa con una bella, con un bel fucilasso, un bel fucilone, no? A caccia grossa in Africa. Ma perché, poveretto? Non lo so, ma a me mica c'è niente di male andare a caccia, no, in Africa. Vabbè, Giafra, ti abbraccio. Davide, ascolta, hai fatto una bella festa, eh? Grazie, vai, però un po' di tempo fa. Grazie di essere venuto, vecchio mio. Saluta tua moglie. Ciao, mi raccomando. Io la saluto, saluto Susi, eh. Saluta la Susi, ciao, saluta, ciao, la grande, ciao. Susi. Ciao, ciao. Antonio, ciao. Roma, vai, Antonio. Antonio. Però, ecco un attimo, sì, dimmi, dimmi. Devo ordinare la voce che stavo in macchina. Vai, vai, Antonio, dimmi. Tanto stai, boh. Vai. Niente, io stavo levando la voce, ho sentito la radio. Niente, io telefonavo per quella provocazione che ha fatto te, purtroppo io sono tassista, in questo momento la signora Maglia, volevo fare un linguaggio un po' più colorito. Però c'è gente in macchina, vai. Chi è la signora? Ma passami la signora un attimo, passami la signora un secondo. Le passa la signora? Sì, passami la signora. Ha detto no. Come ha detto di no? La signora, quante, che signora è? Quanti anni ha? Perché, come si permette di rifiutarsi? No, quanti anni ha? Vabbè, ma adesso, no, non puoi parlare, adesso non puoi parlare liberamente perché c'è la signora in macchina, dici? Ma chi è la signora? No, ma lei mi ha detto sì, mi ha detto. Appunto, e vai, vai tranquillo, no, Antonio. La signora che c'entro, mi ha detto che è lei che ha telefonato, giustamente. No, devo dire, l'ha fatta la polemica del fatto che volete via il deretano per 200.000 euro. Sì, il deretano, 200.000, sì. 200.000 euro. Tante persone gli hanno telefonato. E secondo me tu sta a fare un po' marcia indietro. Ma io non sto facendo assolutamente marcia indietro. Sì, no, ha ragione. Questo ascoltatore ha ragione, sicuro. Fa la cosa privata. Secondo me, non mica perché te se vanno a curare perché per gusto del culato, scusa del termine, ma alla fine te sono a curare per la notorietà. Perché poi chi viene con te magari va a Barbara d'Urso, diventa importante, cioè importante, cioè uno del cazzo di 100.000 euro, cioè importante, per dire, certo, appunto, no, è una cifra importante, però con una causale, il bonifico, una causale, una cosa scritta, tutto quanto, penso che in ogni caso, complicato, tutta la gente che presente, penso che ha trovato qualcuno che, Antonio, che veramente, Antonio, parla seriamente. Antonio, poi, Antonio, fatto, Antonio, sì, stai, dimmi. Allora, io non mi sto tirando indietro, tutto nasce da un'altra roba. Secondo me, se uno è consapevole, se uno è, come dire, cosciente, può mettere in vendita una parte del proprio corpo, come succede alle donne per l'utero. Infatti non c'è un prezzo a tutti. Io ti ho detto che quella roba lì non ha prezzo per me. Beh, per te, per me sì. Questo è l'assunto sbagliato per me sì. Infatti, eccitato gli ascoltatori. Ma sono io, ma sono io che parlo. Sono io che parlo. Secondo me invece è così. Allora, come una donna può affittare il suo utero, io posso affittare il mio sedere, il mio culo. E ho detto, beh, se qualcuno mi vuole offrire 200.000 euro, con 200.000 euro cash, cioè con un bel bonifico, puliti senza pagarci nulla, eccetera. In fin dei conti, che sarà mai? Pagarsi, che, insomma, no, non credo che se uno mi dà 200.000 euro non devo pagare niente. Quando fai una vincita, ma assolutamente alla gratta no. Se qualcuno mi, versa 200.000 euro, io 200.000 euro stanno lì. Ma sì, ma vanno dichiarati, però credo. Ma non lo so. Ma comunque, questo è un problema marginale. No, non è marginale. No, rispetto no, a non è marginale resto, per niente. Mi pare marginale. No, non mi sta marginale. IVA al netto dell'IVA, ma che discorsi sono? 200.000 euro per fare quella porcheria. Adesso stiamo qui a dire il 2%, il 4% l'IVA senza IVA al netto. Ma vaffanculo, mettiti lì in piazza. Fai sta roba e basta. Sei svegliato. L'IVA al 2, al 4 era. Adesso apriranno un conto corrente. Lo farai e sarai sputtanato per tutta la vita. Esentasse, mi dicono. Esentasse, mi dispiace. Non fa la differenza. Sarebbero esentasse. Il mio commercialista si è svegliato. Ha detto esentasse. Non rompere i coglioni. Commercialista della Magliana. Ma che Magliana? È un commercialista serissimo. Qua a Milano, al centro storico. Sei impazzito. Commercialista serissimo. Io non dico nomi come fai. Ma quale banda della Magliana? Ma sarai tu la banda della Magliana? No, quello lì ma sarai il tuo, ma cioè, sarai il commercialista tuo. Di Dell'Utri, ti querela, ha detto, ti querela. Ma che querela? Ti querela, io. Ti querela. Ma cosa querela? Scusa, hai detto che il mio commercialista tra banda della Magliana. Ma che vuol dire banda della Magliana? Ma ti querela sicuramente. Ma che quereli quello che vuole, che me ne frega a me. C'è un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, sono da chiudere subito, guardi, da chiudere. La Zanzara. Allora ragazzi, intanto qualcuno mi scrive: devi pagare l'8% perché è una donazione. Dunque io però credo al mio commercialista, su 200.000 il mio commercialista dice sicuramente qualcosa da pagare ci sarà. No, io credo al mio commercialista. Invece, ma non è che uno può farsi regalare dei soldi. Giada mi scrive zio, devi pagare, a parte che sto zio io odio questi qua, zio, ma che è zio, devi pagare l'8%, è una donazione, il fisco ti incula sempre. No, una che si chiama Giada, non lo so, un'ascoltatrice. Ma mia nipote, che mia nipote, che sei impazzito? Non lo so. Ma io non ho nipoti, sei magari pazzo. Magari saranno. Ah, sì, tutti... ho tre nipoti, è vero, sì. È vero. Come? Neanche i figli di mia sorella, scusa. Poveri ragazzi, ma questi. Meno male che tua sorella non. Peraltro, questi nipoti, meno male che non si chiamano Cruciani, perché tu immagini la mattina a scuola, sti ragazzini. Ma va. Mi dicono, ah, lo zio, sai chi ha detto lo zio? Ma vai chi ha detto? A fare dice il la culo. Maestrina, dice chi ha detto lo zio? Ascolta la radio, che ha detto lo zio, che per 200.000 euro far giochino. Vai. Roberto da Milano, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Niente, scusate, è la prima volta che parlo in radio. Comunque, vai. Mi volevo riagganciare al discorso delle ragazzine di 15-16 anni. Allora, io ne ho 42. Premetto, non sono mai stato con una minorenne, non mi è mai passato per l'anticamera del cervello. Però, ultimamente ho avuto delle vicende familiari, eccetera, eccetera. Sono rimasto solo, no? Ti sei separato, vicende familiari. Sì, a meno sì, che non sia morta tua moglie, ma se... no, no, magari. Ma come magari, amico mio? Ma che gente chiama? Meglio la morte della separazione. Adesso questo, mamma francamente, mia. Sì, almeno... pagato meno di avvocato. Vabbè, però è un pensiero recondito. Chiaramente Roberto non ammazzerebbe mai la moglie, immagino. No, ma stiamo scherzando. Allora, la cosa, però, è un pensiero recondito che passa nella mente di moltissime persone separate. A me, per esempio, non è mai passato per la mente. Però posso capire chi è entrato in conflitto con una ex moglie o con un'ex compagna, no, ogni tanto possa. Sì, ho capito, Roberto. Non ti preoccupare, non ti metto in mezzo per questo qua, per questa cosa qui. No, a qualcuno possa venire in mente: beh, cazzo, questa la vorrei ammazzare, ma talmente rotti i coglioni con i soldi, con gli avvocati. Anche a te, Parenzo, che ti sei separato, ti sarà venuto per un momento un lampo nel cervello. A me, per esempio, no, Parenzo, no, figurati, Parenzo, no. Sì, è un santo. No, ma che santo, io mi incazzo a morire, ma mai pensieri così non mi so... nel mondo Vabbè, civilizzato, Roberto, allora... non ti vengono. Ma no, ma era una battuta per fare un po' il simpatico, ci mancherebbe. No, volevo dire... una battuta, ti è venuto spontaneo, che cazzo dici, Roberto? Quale battuta? Sì. Dai, non dico... adesso non diciamo stronzate. Se mi, ma se... Poi che se mi pigli in giro, mo mi tinculo sul serio, io mi tinculo, non 200.000 però, a gratis. Se ci sono froci in linea, io mi accontento di 50.000, comunque vabbè. Stavo dicendo, ricollegandomi a quel discorso delle ragazzine, appunto, mai guardate in vita mia, però effettivamente da quando sono solo, io sono di Milano e giro, magari vado da McDonald's con mio figlio, sì, eccetera, sì, eccetera, sì. A volte non te ne accorgi neanche che queste hanno 15-16 anni e ti garantisco che è inutile e allora? Che si nascondano, perché... cioè tu, anche tu sei attratto? Anche tu sei attratto? Sì, sono attratto, non l'ho mai fatto, però effettivamente cioè, io per esempio, è una roba che non mi attira per niente, non so perché, per fortuna, perché ho tante altre perversioni, se ci avessi pure questa sarei rovinato. Ma però mi attraggono dal punto di vista, cioè, vabbè, dai, ti arrapano, dai, su Roberto, ti arrapano, dai, sei arrapato dalle ragazzine, ma non è una cosa così strana, cioè ti arrapa una di 15 anni, di 16 anni, no, ti fa arrapare? No, preferisco la trentenne con esperienza e tutto. Però voglio dire... cioè puoi capire chi non si riesce a trattenere? Bravo, ecco, mi hai colto il punto, nel senso che ci sono magari persone più deboli... sì, ma la colpa magari... non è loro, però non è delle ragazzine che si vestono strano, che si vestono male... assolutamente, non è... bisogna chiedere la carta d'identità, altrimenti si va davanti ai carabinieri. Bravo. Roberto, ciao caro. Altro che il traffico, qua ci serve sapere del traffico di stupefacenti, che non si trova più l'erba buena... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara. Tu un giorno mi fa parlare del diavolo, no? Dicevo, ma esiste il diavolo, che è il diavolo? Tu sei il figlio del diavolo. Tu chi ti credi di essere? Ti faccio sentire cosa ha detto Brunetta sulla storia dei giornali, no? La Repubblica, la stampa, la fusione, la mega fusione del giornale. Perché la cosa incredibile è che Brunetta parla della, di concentramento di potere intorno a De Benedetti. Ora, per carità, sicuramente si può discutere di questa cosa, non siamo noi a occuparcene. Sai perché? Sai cosa ho comprato? Sì, no, la stampa! Sì, questo è santo. Com'è che farebbe Mauro? Com'è sai che... perché? La stampa compra. E sai chi è stato? De Benedetti! Vabbè, lo sapevamo, sì, questo lo sa, chiunque lo sa. E sai cosa ha comprato ancora? La Radio 24, solo 24 no, ore! Veramente e no! Mantova, tutta Mantova compra! Sai perché? Perché è ebreo! Beh. Ma avete un imprenditore come altri, cioè non, però non è che... Brunetta, Brunetta, sembra Mauro da Mantova in questa roba qua. Senti, sì, senti Brunetta, senti, senti. Beh, De Benedetti è il nuovo padrone dell'informazione in Italia. Ha niente da dire il Presidente del Consiglio Renzi su questo attacco alla democrazia? Ha niente da dire la sinistra delle anime belle, quelle dei girotondi, che ad ogni piè sospinto se la prendevano sul conflitto di interesse di Berlusconi? E De Benedetti? E De Benedetti? E De Benedetti? Cioè, io dico una cosa. Brunetta che parla di concentrazione. Cioè, di concentrazione. Brunetta, Forza Italia, Berlusconi, che parla di concentrazione della stampa, della stampa, della stampa italiana su De Benedetti. Ma ragazzi, è il bue che dà del cornuto. A tutto c'è un limite, però. A tutto c'è. È vera una cosa, però. È vera una cosa. Che nei confronti di altre operazioni. Auguri a questo nuovo grande gruppo editoriale. No, non c'è dubbio. Però, nei confronti di altre operazioni che ci sono state, nei confronti di altre operazioni. Molti tipo, ci sono stracciati tipo Mondadori, sì, con la Rizzoli, c'è tipo una, per non fare dei nomi, Mondadori con la Rizzoli. Ci sono state che è un'ottima operazione, peraltro. Sì, ci sono state anche lì polemiche. È vero che la concentrazione in quel caso è diversa rispetto alla prima dal punto di vista, diciamo, come dire, della consistenza. Però molti sono stracciati le vesti, oddio, Berlusconi. No, della consistenza, cioè il mercato dei libri rispetto al mercato dei giornali, questo mercato, il mercato dei giornali. Ma che c'entra? Ma no, ma sono numeri diversi, no? Ma sono cioè, numeri comunque diversi. La, anzi, l'autority e l'antitrust sono si sono no, ma voglio dire molti si sono stracciati le vesti in quel caso, e in questo caso invece tutti zitti. Questo è vero, però non c'entra una mazza. Brunetta che ci fa la lezione sulla concentrazione della stampa nei confronti di De Benedetti è ridicolo, no? Brunetta, certo, tra parentesi, Forza Italia, chiusa parentesi. Ragazzi, a proposito di cosa si può vendere e cosa non si può vendere, vi faccio ascoltare una cosa molto forte che hanno realizzato gli amici di Cusano Campus. Cosa hanno fatto? Sono bravi sti ragazzi alla fine. Molto no? bravi. Cosa hanno fatto? Hanno chiamato una prostituta, la quale, in cambio di sesso, ovviamente, accetta anche un agnello. Accetta anche un agnello. Cioè dire, in cambio di sesso, dice, no, io non voglio darti soldi, ti posso dare un agnello in cambio, un agnello vivo, agnello vivo. Sembra uno scherzo, non è uno scherzo, sentite. Pronto? Pronto, ciao, ho letto il tuo annuncio. Come? Ho letto il tuo annuncio. Ah, sì, vuoi venire a trovarmi? In che zona sei? Zona Tiburtina, Casal Bruciato. Ah, ho capito, zona di Buttina, Casa Bruciava. Senti, più o meno quanto per un'ora? 50, ma per un'ora 100. Per un'ora 100, vabbè, il prezzo mi sembra buono. Senti, ti volevo dire, ma se invece dei soldi ti portassi da mangiare, che ne so, un agnello, potremmo stare insieme comunque una mezz'oretta? Io sono un allevatore, ne ho tanti di agnelli. Magari sta arrivando la Pasqua, io ti porto un agnello invece dei soldi. Va bene, forse più fresco. Oh, è che te mi avveleni. Te lo porto vivo se vuoi. Sì, portami vivo, così sto tranquillo. No? Davvero, dici, sicura? Guarda, io vengo, eh. Davvero? Se, ma poi non ti serve che te lo macello io, te lo macelli da sola? No, allora fai te, veramente. No, perché... però basta che non mi sentirò male dopo. Allora io te lo porto vivo, poi insieme dopo che abbiamo fatto ci pensiamo. No, fai sì, basta che devo fidare per forza. Te lo porto io l'agnello, quindi? Sì. Però poi non ti do soldi, ti do l'agnello e basta, e poi stiamo insieme. Sì. Per mezz'ora? Sì. Va bene, ci vediamo. Oh, però voglio bello robusto come io, eh. Vuoi bello cicciotto, insomma. Certo. Te lo prendo buono. Chiamami comunque prima. Ti chiamo una mezz'ora prima. Ti chiamo una mezz'ora prima. Ok, dai. Ciao, come ti chiami? Monica. Ciao Monica, un abbraccio, ciao. Ciao. Hai capito? Io però per l'agnello non mi faccio inculare, ragazzi, eh. Cioè per un agnello no. Tu 200.000, diciamo. No, 200.000, non ci sarà nessuno, questo è il punto, ragazzi, non c'è nessuno. 200.000, quello di ieri, secondo me non richiama, richiama, amico mio, se hai coraggio. Non lo voglio chiamare io. Pur sì, di ma... vederti in no, quel inchiappettato, contesto là. Inchiappettato, lo devi dire. Puoi dire io anche inchiappettato, non è volgare inchiappettato. Inchiappettato, beh, non è volgare. Pur di vederti in quella situazione, sì, quella ma... situazione lì farebbe di tutto. Le parole... E io per primo. Le parole non devono mettere paura, ripeto, era riferito all'utero in affitto e comunque Facci sostiene, Filippo Facci, lo faccio per 199.000, ma non c'hai un euro, a Fili, è inutile che dici cazzate, c'hai i buffi, c'hai i debiti, sei pieno dei debiti, come dei buffi, ma no, poi dei buffi dici? Come tutti, poi dei buffi ce l'hai, 199.000, dove li prendi questi soldi, dai? Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta l'Europa al bivio greco con Radio 24 nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Dai domeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. La Zanzara. Ciao Cruciani, senti qua. Allora, crisi di governo in Italia? Il presidente Mattarella che affida l'incarico a De Luca di formare il governo? Contemporaneamente in America stravince Trump? Te lo immagini un vertice bilaterale Italia-USA con il governatore del mondo De Luca e Super Trump Donald? Cazzo, fanta politica! Ma quanto bello sarebbe. Ciao, ciao Cruciani. Beh, sarebbe straordinario. Trump alla casa. Dementi. Beh, ma che dementi? Ma che ma dementi? Tu affideresti mai a Donald Trump tutta la vita? La guida dell'Italia domani mattina. Domani ma mattina. Perché sei un pazzo? Ma perché che pazzo? Sei ma sono, matto scatenato? Ma non sono pazzo persona, per niente. Quello dichiara gente guerra nuova, chiunque, un pazzo. Gente nuova, aria nuova. È un, matto, un miliardario ubriacone. Via, i vecchi, dai. Un miliardario ubriacone. Ti faccio querelare. Ti faccio querelare. Chiamo Briatore. Ti faccio querelare. Riferisco queste tue parole ma a Trump. Dai. Ti faccio querelare. Personaggio grottesco, pazzesco. Ma incredibile. Incredibile. Alan Friedman, senti che ne pensa Alan, ecco, sì, Friedman. No, io la penso come Friedman, esatto, come te Friedman. Pareva, te pareva, uguale. Te pareva. Che è americano, quindi ne sa. Questa è la proiezione della trash, della volgarità, della reality americano in TV, analogo a Kanye West, il rapper, e la sua volgarità con la famiglia Kardashian. Qui parliamo proprio di gentaglia. Gentaglia, stupendo, sì, gentaglia, perfettamente ragione. Vabbè, gentaglia. Quel paese, dai. Gente a cui non affideresti neanche il condominio di casa. Sì, invece li affideresti ai buffoni che ci sono adesso. Ma dai, ma quali buffoni? Obama è una persona seria, può ma sbagliare no, in alcune America, cose. In generale, dicevo, in generale, dai. Su. Appunto, io mi affiderei a Buonanno. Tu immagini Buonanno la c'entra vita di un Buonanno paese. Con Trump? Cosa c'entra Buonanno con Trump? Non c'entra no, niente. Un personaggio dai. Simile, ecco, ma che grottesco, simile? Quello uguale. Ha fatto un sacco di cose nella sua vita, dai. Che cosa cazzo hai fatto tu? Personaggio, ma io non mi candido a governare l'America. Dai, certo. Senti questo, senti quest'altro Friedman. Io sono un grande tifoso di Trump, ragazzi, mi fa impazzire Trump. Se arrivassi Donald Trump, io non voglio neanche immaginare quello che può accadere, perché Donald Trump non è mentalmente stabile. Donald non è? Trump non è mental, non è stabile, non è sano nella testa, è un pazzo, non so come dire poro. Donald Trump Beh. Non è una persona equilibrata, è squilibrato. Squilibrato, è squilibrato. Sì, esattamente come dai, lui la pensa, uguale. Su, squilibrato. In effetti, ripescando alcuni piccoli audio. Ci può divertire noi giornalisti, ovviamente. Alcuni piccoli audio. Aspetta, alcuni piccoli audio, perché lui è stato spesso ospite di Howard Stern nel passato. Non adesso, naturalmente, da quando è entrato, diciamo, in politica. Nel passato è stato spessissimo ospite di Howard Stern. E ne diceva di tutti i colori. Di tutti i colori, spettacolare. Di sesso parlava, di qualsiasi cosa, soprattutto di sesso, naturalmente. Mi mandate qualche pezzettino piccolino, piccolino. Is oral sex important to you? It's man to man. And I've had this discussion with many men. No, it's not important to me. What? Il sesso orale non è importante. Lui gli chiedeva, ma il sesso orale per te? No, no, it's not important for me. It's not important. Oral sex. Oral sex. Cioè, non gli piace essere scompinato. Sono le cose più intelligenti che ha detto, però. In vita sua. Senti, beh, questa cosa. Lui una volta disse che lui si farebbe la principessa Diana. Cioè, gli hanno chiesto quali sono le 10 donne più belle secondo te, le 10 donne che ti faresti. Lui ha messo, ovviamente, l'ex moglie, la moglie ai primi posti. È possibile dopo Lady Diana. Era proprio. Ma quando era? Dopo che è morto o prima che è morto? Non mi ricordo. Dopo, credo, dopo. I never get this thing with Lady Di. I know you're very gracious. He really liked Lady Di. No, I'll tell you what, I think she's magnificent. Lady Di was truly a woman with great beauty. You would have slept with her a couple of times. Would you have slept with her? Without even hesitation. Ci andresti a letto senza esitazione, dunque era mentre era viva, diciamo, mentre era viva. Ci andresti a letto, secondo me sì, ci andresti a letto. Ma mi dicono che era il 2000. Vabbè, era tutto così, capito? Era spettacolare. Cioè, in America in questi giorni hanno raccolto un sacco di queste dichiarazioni. Tant'è che hanno chiesto al figlio a un certo punto, una televisione, ma insomma tuo padre ne diceva di tutti i colori. Vabbè, ma lui e Stern erano amici, lui andava là, si divertiva, eccetera, eccetera. Ma quello poco male, all'epoca era solo un miliardario, eccetera. Vabbè, ma che c'è, tutto quello che dici nel passato, tutto quello che dici nel passato, comunque. Allora, Marco da Roma, vai, Marco. Sì, buonasera a tutti, Cruciani. Dimmi, Marco. Senti, allora, la cosa su cui volevo parlare era questa paradossale vicenda del direttore della Reggia di Caserta, che hai detto all'inizio. Sì. Una cosa folle. I sindacati dicono naturalmente che noi abbiamo chiesto qualcosa sulla permanenza di questo direttore, ma semplicemente perché ci sono delle cose da rispettare, sì, e poi bisogna guardare. Ma cosa si deve rispettare? Il direttore della Reggia di Caserta non può lavorare fino a tardi, deve chiedere il permesso o deve attendere che un usciere gli chiuda la porta? Primo, secondo me, il direttore della Reggia di Caserta deve poter entrare e uscire quando e come gli pare. Ma questa è gente fuori dal mondo, è gente fuori dal mondo, fuori dal mondo. È vergognoso che nel paese italico, peraltro, e facciamo una figuraccia davanti a tutto il mondo con questa dichiarazione, il direttore deve sottostare ai sindacati. Il direttore della Reggia di Caserta, che saprete tutti, è la casa reale, il palazzo reale più grande d'Europa, un gioiello a livello internazionale che invece di espandere la sua capacità di creare ricchezza, peraltro, per tutta Caserta e per tutta la provincia. Ma Marco, è inutile che ci spieghi queste cose, tu hai perfettamente hai ragione. Non c'è manco bisogno di dirlo. Un sindacato fino alle 3 di notte, sì, ma non è proprio con giochi di luce per attirare milioni di visitatori. Ma non il sindacato di quelle sigle che hanno firmato sta roba, non il sindacato in quanto tale. Non c'è bisogno, non c'è bisogno, quello dici. Beh, sì, c'è bisogno, io non so quali sono le sigle, peraltro. Allora, magari scopriamo che non sono CGL, CISL, UIL, magari sono altre sigle. Marco, la cosa è molto semplice: il solo fatto che ci siano dei sindacalisti della UIL, della USB, dell'UGL, non so che cazzo di sigle, ci sono troppe sigle sindacali. No, ma è importante però sapere quali. Tu ti occupi di queste cose qua. Io mi occupo del fatto che sono tre sindacati molto rappresentativi della Reggia di Caserta e che i rappresentanti in questione sono degli imbecilli, perché è evidente che se tu scrivi anche solo in un documento che questo qua resta fino a tardi a lavorare, questo rappresenta un problema, sei un deficiente, punto e basta. Non c'è discussioni da fare, le sigle, quali sono, chi rappresentano, chi non rappresentano, queste sono altre cose che lasciamo agli altri. Chi scrive una cosa di questo tipo, chi mette nero su bianco in una lettera al ministro della cultura che il direttore della Reggia di Caserta, peraltro appena nominato, uno che si fa un culo così per rimediare alle porcherie che gli stessi sindacati sicuramente hanno fatto per anni alla Reggia di Caserta, con turni assurdi, senza, lasciamo perdere, uno che si fa un culo così deve ricevere una lettera in cui si dice che questo qua lavora troppo, che bisogna predisporre un servizio, che bisogna vedere quello che ha fatto in questi 6 mesi. Ma non siete voi a giudicare il direttore della Reggia di Caserta, saranno altri, per fortuna, non sono i sindacati che devono giudicare il tipo di lavoro che viene fatto. Chiaro? Giuseppe da Roma, dai. Giuseppe, dimmi. Esatto. Senti, io volevo rivolgermi al fatto della Boldrini che ha chiesto di mettere le bandiere a mezz'asta per il femminicidio. Ma che vogliono ste donne ancora da noi uomini? C'è una legge micidiale sullo stalking che la usano spesso e volentieri per rovinare qualcuno. Cioè, in che senso lo servono per rovinare? Adesso ti sembra giusto che per una separazione magari una si fa inventare dopo 30 anni di matrimonio che ha avuto un rapporto col marito contro natura? Cioè, non lo capisco, è successo a te? No, a me mi hanno denunciato per stalking un amante, 17 anni, per 17 anni insieme, perché poi l'ho lasciata. Mi ha fatto passare bene dell'inferno. No, ma scusami, adesso chiariamo un amante. Chiariamo le cose, Giuseppe. Tu sei un ex stalker? Esatto, un ex stalker. Cioè, sei stato condannato per stalking? Sì, a 3 anni e 4 mesi. Con 2 anni... custodie cautelari. Ma che ha fatto, scusi? In realtà una telefonata. Beh, dai, una telefonata. Nessuno prende 3 anni. È un criminale, lei. Guardi, io ho avuto a che fare con lo stalking, purtroppo. Ho avuto a che fare. E non è che ti portano in tribunale. Signor Cruciani, ci confezionano i carabinieri quello che vogliono. Ma non è vero. Ma non è vero. Guardi, è una mia realtà giuridica. È una mia realtà giuridica. Giuseppe, io sì, non lo so. Ma io ti parlo di cose che conosco per quello che mi riguarda e per quello che riguarda altre persone. Per essere condannato, dico, non per essere accusato. Ovviamente le accuse possono anche venire da persone malate, da persone che si vogliono vendicare. Ma per essere condannato per stalking, beh, la mole di documenti che bisogna presentare è notevole, cioè non è che basta una telefonata e sei condannato per stalking, non diciamo cazzate, dai. Signor Cruciani, io un pubblico ministero che mi chiede 16 mesi e il giudice mi dà 3 anni e 4 mesi, è successo soltanto a me, mi dà tanto. Ma io non lo so adesso, devo vedere le carte, eccetera. Di 4 anni di pena, cioè io non ne parlo per questo fatto qua, però se queste donne hanno un potere micidiale. Hanno un potere micidiale, che vuol dire? Basta vedere cosa ha fatto lei. Ma se tu che cosa hai fatto? Se non rompevi i coglioni a questa tua ex fidanzata, non succedeva nulla. Lo so, come non lo so? Lo so un cazzo, scusami. Questo ragione. Ma non ho ragione. In che modo gli hai rotto i coglioni a questa ex fidanzata? Spiegami. Ho detto, con delle telefonate dopo il coso, comunque, poco sbagliato, è fuori discussione. Beh, amico mio, adesso io non lo so, la condanna magari sarà stata troppo severa, non lo so cosa è successo, quello che ti pare. Ma comunque, amico mio, tu bisogna essere chiari su questo. C'è la libertà in Italia. Ti sembra giusto il discorso che una donna dopo 30 anni di matrimonio ti possa denunciare per violenza carnale? Ma io non lo so, a chi è successo questo? Ho sentito varie denunce. Ma non lo so, ma queste sono follie. Non lo so cosa è successo nei matrimoni. Pure un ex pornostar o un pornostar è stato accusato recentemente di violenza nei confronti cioè, lasciamo perdere queste cose qui. Tu parla di cose che conosci, cioè la tua storia. La tua storia è quella di un ex stalker condannato a 3 anni e 4 mesi. Tantissimo. Massacrato. Guardi, io gli posso mandare anche la documentazione. No, ma ho capito, Giuseppe. Però uno deve essere anche responsabile di quello che fa. Io posso dire una cosa alla radio, però sono responsabile di quello che dico. Se dico che mi faccio. Ma io non ho usato violenza, io non ho, cioè, ma la violenza è anche nelle parole, anche nei messaggi. Se uno rompe i coglioni a una persona, te lo posso dire davvero per esperienza personale. Assediarla. Ho capito. Ma perché hai rotto i coglioni alla tua ex fidanzata? Mi spieghi perché? Sono d'accordo con te. Perché gli hai rotto i coglioni? Perché sei ossessionato, sei malato. Questo è il punto, è una malattia questa roba qua. Può anche essere giusto. No, è giusto, è così, perché è così. Ti assicuro, io ci sono passato e qualche volta ogni tanto ci passo. Ci sono persone che perdono il controllo. Perdono il controllo ed è l'ossessione. Ma la violenza non è solo perché gli metti le mani addosso, ma figuriamoci. La violenza è anche nell'insistere. C'è gente che ti viene sotto casa, che ti rompe le balle, che ti riga la macchina. Lasciamo perdere. Io questo non l'ho fatto. E che gli hai fatto allora? Sono 3 anni, peccato. Guardi, sono stato accusato di tante cose che poi non si sono mai realizzate. Che ho minacciato di dare fuoco a casa, che ho minacciato. Beh, amico mio, poi ti stupisci. Ma ho capito, amico mio, hai preso 3 anni e 4 mesi e ti stupisci che hai preso 3 anni e 4 mesi. Te do fuoco a casa, ti ammazzi i figli e ti stupisci perché hai preso 3 anni e 4 mesi. Ma mai successe queste cose? Ma non c'entra un cazzo, ma lo vuoi capire che non c'entra? Ma se uno te lo dice, non è simpatico, però. Ma mi dice, ma sai, ho fatto qualche telefonia all'inizio della telefonata, sai che ha detto questo qua? Ha detto, ho fatto una qualche telefonia. Ho detto, certamente fare qualche telefonata 3 anni e 4 mesi. Detto, sei una stronza, mi hai lasciata. Te lo fuoco a casa. Ti ammazzi i figli. Dici no, vanno da 3 anni e 4 mesi. Ma te devono da 10 anni, devono da. Ma sai che significa? Scusami Giuseppe, adesso lasciamo perdere, 10 anni forse no. Però il punto è un altro. Se tu scrivi certe cose, peraltro. Se tu scrivi certe cose, amico mio, poi ti assumi la responsabilità di quello che scrivi. Ma è stato un po' in galera, no? Perché ma c'è questo poi... qui sono, ma io guarda, anche. Io sono d'accordo con lei. Comunque la telefonata mia era rivolta al fatto. Ma per scusami un attimo, quanto, amico mio, quanto hai fatto? Zero, 6 mesi. Hai fatto qualche carcere? Hai fatto il carcere o no? 16 16 mesi di carcere. 16 che ti ho detto? 6 ho detto, vabbè. 16 mesi. Calcolato, 16 mesi. Prima 6 mesi e poi 10 mesi. Giudice, che sei? Ma no, ma perché è chiaro, se non aveva precedenti penali per un reato come quello, 3 anni, sconti di pena e quant'altro, un anno è qualcosa. Ragazzi, però poi racconterò le mie storie, Mamma mia se racconto le mie storie, mamma mia, tremano i muri, tremano i muri. Mauro da oh, c'è Mauro, aspetta, prima Andrea da Milano, prima scalda di Parenzo, Andrea da Milano. Qua. Non so, c'è poco da oggi, non ce la posso fare. Hai ragione, sei troppo debole oggi, sei debole di cuore. No, ma oggi. No, debole, non ce la posso fare perché parlerà di dell'acquisizione di Benedetti. Prima non c'era Andrea, fare. Prima c'è. Ed è Benedetti. Un'ora e mezza. Andrea, dai, dimmi. Posso pronto farci. Un'ora e mezza di attesa. Allora, ciao Zanza, re delle zanzate. Vai, prima vai di approfondire l'argomento che riguarda il tuo amico Vittorio Sgarbi, caro Cruciani, fai sapere quanto vuoi per fare un pompino, non più di 2.000 o 20.000, questo secondo matto, le case, immagino, no? Come? Sapendo. Ma di che stai parlando questo? Questo è un malato. Sapendo, Cruciani, che sì, a chi ti piace il pompino lo fai gratis, come hai fatto capire, e anche per il culo lo dai. Vabbè. A chi ti piace gratis. Vabbè. Per quanto riguarda la fragranza, Cruciani, la fragranza di che? Quale fragranza? Fragranza non significa cogliere sul fatto chi compie un reato, questa è la fragranza, mi meraviglio. Sì, quello allora. E allora questo caso, fragranza invece è il contrario, l'opposto di sgarbi. Che ma di che stai parlando, Andrea? Di che stai parlando? Fragranza è l'opposto di sgarbi. La fragranza è un'altra cosa, è la freschezza. È la freschezza. L'opposto di sgarbi che è sinonimo di fetore, fetido, capito? Ah, fetido, Zanza, fetido, cioè, fetido. Capito, zanzare. Ma le pilloline stasera non le hai prese, le pilloline? Le pilloline non le hai prese, le pilloline. Non le hai prese le pilloline? Re delle zanzare, in questo l'unico che ti batte. Ma le pilloline le hai prese stasera? Non l'ha presa. Non l'ha presa. Nell'opera di annientamento. Di qualsiasi tentativo di ragionamento su cose prioritarie. Vabbè, con azioni malata, nichiliste producendo solo approssimazione e confusione. Vai. In testa con l'ambulanza, questo, Squinzi, in testa questa pure Squinzi, poveraccio, pure Squinzi. No, poveraccio, citarlo così. Come volto Squinzi in questa follia? No, citatelo così, dai. Nell'azione nichilista, nell'antidemocratica. No, sì, sicuro nichilista. Squinzi, no, non si vuole dire nichilista Squinzi, dai. Quel modo di fare. Sfumiamo così, lascialo parlare. Coglione, tutti gli ascoltatori. Mauro. Che vuoi? Ecco, esce uno e entra un altro. Avanti, si scalda. I bordi campo. Ascolta, ho poco tempo, perché hai chiamato a quest'ora? Dai. Non fammi chiamare. Amico mio, però hai chiamato adesso. Scusami. Sai perché ti ha chiamato adesso? La telefonata. Giuseppe, chiamate adesso perché c'erano dei Benedetti prima. Quando dicevi prima delle ragazzine di 13 anni, allora nelle chat, io ieri prima mi ha chiamato Nelle chat, sai chi c'era nelle chat? De Benedetti! Ma non c'era assolutamente, era a comprare giornali, non era nelle chat. Oh, mi fa, sono impegnata e risponde, sento una voce che sembra Mario Biondi o Barry White, e lei aveva il nick Corva. Ma qua è Nick, di che stai parlando? Ma sai chi era invece? Ah, è quello che c'è in chat. Io rispondo, dico, ma chi è il marito? Ho pensato che sarà il marito, ma no, sono io. Cazzo, ma te non sei una donna, te sei un trans. Ma che c'entra? Ma che c'entra adesso questo? Ma porca puttana, ma cosa ti metti in lingua femmina se sei un maschio? Vabbè, ma questo è matto. Cioè, no, allora, Parenzo, intervieni tu, ti prego, intervieni. Al di là di quello, quando tu dicevi le ragazzine ti infogliano o non ti infogliano. Io una sera, una notte, sono stato a chattare con una ragazzina che lei mi mette 18 anni. Però amico mio, adesso io non ti voglio, con questi estremi lo arresterei. Se tu continui con questa finalmente cosa, poi mi costringi. Come Al Capone fu fottuto per un'evasione fiscale. Mi costringi poi. Come Al Capone, questo lo fotteremo per una chat. Alla denuncia per stalkeraggio oppure per prostituzione minorile, per cui stai attento, Mauro. Anche per quello, anche hai chiamato troppo tardi o ti abbiamo richiamato troppo tardi, purtroppo. No, la non festa è mai troppo tardi per questi reati. La festa è finita, per fortuna. I sindacati di Caserta devono andare serenamente a fare in culo e dovrebbero essere cacciati i signori che hanno fatto quella lettera al Ministero dei Beni Culturali. Viva Mauro D'Amanto va a portare nella sua spelonca e chiudiamo. Viva ci il direttore lunedì della Reggia di Caserta e ci sentiamo lunedì alle 18:30. No, chiudere un cavolo. No, ma che c'entra? No, un momento.